all'ultima relazione, quella del professor Ernesto Sestan su centralismo, federalismo e diritti storici nell'ultimo mezzo secolo 1868 a 1918 della monarchia asburgica. Il professor Sestan, non è necessario che io ve lo presenti, tutti lo conosciamo come un autentico maestro che con uguale maestria, con uguale competenza ha lavorato sia nel campo di storia medievale che nel campo di storia moderna e anzi anche contemporanea, tant'è vero che lui nell'ultimo periodo della sua carriera accademica, se non erro, ha coperto due cattedre, una di storia medievale e una di storia moderna. Allora lui appartiene a questa invidiabile generazione che aveva una conoscenza di tutto il campo della storia medievale e moderna, e prego il professor Sestan di prendere la parola. Signore e signori, cari amici, che vedo laggiù, anche cari studenti, vero? Spero uditori non coatti. Vero? Dunque, per trattare appena decentemente della monarchia asburgica, specialmente nel suo ultimo mezzo secolo di esistenza, bisognerebbe essere poliglotta. Ed io non lo sono. Ma anche se lo fossi, se sapessi leggere l'ungherese, il ceco, il polacco, lo sloveno, il croato, il romeno, non farei un gran passo avanti, perché le biblioteche italiane me ne somministrerebbero soltanto una minima, infinitesima parte, e forse nemmeno tutta quella assolutamente indispensabile della immensa letteratura che si è venuta accumulando e viene continuamente crescendo sulla storia di quello Stato così singolare nella costellazione delle grandi potenze europee. E poi anche gli studi accessibili, fra questi, vero, mi spaventano per esempio le quasi mille dotissime pagine dedicate ad esempio da Bertolt Suter soltanto alle Sprachforderungen del ministro presidente Badeni nel 1897. Conclusione logica sarebbe che non ne facesse di nulla. Se oso essere non conseguenziario, è perché mi illudo di poter portare qualche modesto contributo, non su dati di fatto, ma con qualche considerazione d'ordine generale, sempre nei limiti della letteratura generale e monografica in lingue a me accessibili. Penso così di venire incontro agli obiettivi di questa associazione Italia-Austria e di questo Istituto Trentino di Cultura che mi hanno fatto l'onore di invitarmi a parlare, obiettivi diretti alla migliore conoscenza reciproca dei due paesi nel loro presente e nel loro passato. Del presente non parlo, ma anche del passato solo nei limiti cronologici indicati nel titolo di questa mia discorsa, ivi compresi anche gli studi italiani sulla monarchia asburgica usciti in quel mezzo secolo. Il bilancio è sconfortante. Ora, da qualche decennio, si va molto meglio. Si è formato un gruppo di studiosi specialisti che hanno cominciato ad investigare la storia della defunta monarchia anche nella sua vita interna. E mi basterà ricordare, fra i più noti e valorosi, oltre a Valsecchi, che è stato all'avanguardia per gli studi italiani sul Settecento austriaco, Valiani, che beato lui è poliglotta, Tamborra, Ara, Cervani, Pierazzi, eccetera, eccetera. Tutto questo è ben promettente e contrasta con lo squallore del mezzo secolo, 68-1918. C'era stato, sì, qualche studio sulla politica estera della monarchia, specialmente in rapporto all'Italia, ma erano studi che necessariamente si muovevano su linee molto opinabili, congetturali, essendo chiusi sotto sette sugelli i testi del Trattato della Triplice Alleanza e tali rimasti fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Per mezzo secolo non uscì in Italia uno studio di qualche rilievo sulla vita interna della monarchia. Un po' e anche molto dipendeva dal fatto che la cultura storica professionale, accademica, giudicava sprezzantemente gli studi di storia contemporanea come poco seri, dilettanteschi, ma molto più dipendeva dal fatto che quella storia non interessava. Nella Patria di Pasquale Stanislao Mancini, teorizzatore dell'idea nazionale e dello Stato nazionale, uno Stato plurinazionale era qualche cosa di poco comprensibile, un qualche cosa di anacronistico, di non conforme a quello che si diceva lo spirito del secolo. Eppure esisteva, viveva. Ruggero Bonghi, un liberale moderato, anzi sostanzialmente un conservatore, e perciò predisposto a comprendere ciò che pur ci doveva essere di positivo nella sopravvivenza austriaca, nelle sue cronache quindicinali sulla politica estera nella Magna Nuova Antologia, giudica l'Austria, sono sue parole, il più paziente degli ammalati. Le sue previsioni per l'avvenire non sono ottimistiche. Dice, le stirpi che vi si dilaniano non vi trovano modo né di dividersi né di convivere. E tuttavia, in parte contraddicendosi, parla in altro articolo di grande missione dell'Austria. Accanto al Bonghi, e più a fondo del Bonghi, per il suo abito severo di giurista costituzionalista, va ricordato su questa linea Luigi Palma, con due lunghi lucidi articoli pubblicati sempre nella Nuova Antologia del 1883, che sono quanto sia stato scritto in Italia di meglio, di bene informato e spassionato, sulla situazione creatasi nella duplice monarchia dopo il compromesso del 1867. Ma è tutto. Preciso, non tutto, perché vi è la profluvie dei giudizi sull'Austria di tutt'altra ispirazione e che meriterebbero, con quelli ricordati, una ricerca un po' più approfondita di questi miei assaggi. Sull'Austria dirò così in italienischer Schau, cioè sul modo in cui fu vista l'Austria in Italia in quel cinquantennio. È una visione tradizionale, schematica, perentoria, senza sfumature, senza concessioni, popolarmente orecchiante, spesso una caricatura dell'Austria reale. Vi persiste la tradizione risorgimentale, specialmente di stampo democratico mazziniano, repubblicaneggiante, anticlericale, venata più o meno di irredentismo, impavidamente scolastica. Essa vede in quella monarchia un relitto di tempi superati, un malato d'Europa, quasi quanto l'impero turco, perché ha sotto gli occhi sempre e soltanto l'impero assolutistico, militaresco, poliziesco dell'epoca metternichiana e magari anche dell'epoca dell'era Bach. Condanna senza attenuanti, senza distinzioni di tempi e momenti, tutto l'ultimo secolo di quello Stato. Chiude gli occhi al fatto evidente che dopo gli eventi del 1860-61 è nata, con le leggi del dicembre 1867, una monarchia costituzionale. Certo, non una monarchia parlamentare, ma neanche l'ammirato impero germanico bismarchiano era un impero parlamentare. E ancora nel 1917 Max Weber poteva bollarlo di Scheinkonstitutionalismus. Era la visione erronea non soltanto degli antitriplicisti, ma anche di molti triplicisti, e del resto la triplice, come noto, era stata promossa e stipulata da un governo di cosiddetta sinistra. Né la monarchia asburgica doveva essere quell'eterno malato che si diceva, perché non ci si allea con un moribondo, né sfigurare nel circolo ristretto delle cinque o sei grandi potenze europee, benché fosse l'unica che non aveva né terre né ambizioni coloniali extraeuropee e tuttavia una potenza di tutto rispetto, come mostrò in varie occasioni e nella difficilissima crisi nei mesi successivi all'annessione della Bosnia-Erzegovina. Ma questa visione tutta risorgimentale, in camicia rossa, dell'Austria fino al suo crollo, era dura a morire, in parte non è morta ancora. Trovò la sua espressione nella poetica esaltazione nazionalistica di un D'Annunzio, nell'angelicato impiccatore, l'angelo della forca sempiterna della canzone dei Dardanelli, che si potrebbe spiegare nel clima infuocato di una sagra di quarto per l'intervento, ma è del dicembre 1911. In questa ottica risorgimentale viveva poi una strana contrapposizione dell'Austria all'Ungheria. Quanto nell'Austria si vedeva l'impero dell'arbitrio e della forza brutale, altrettanto nell'Ungheria si vedeva la terra della libertà e indipendenza dei popoli. Era tenace l'ombra di Kossuth, dei Petőfi, dei morti di Arad, dei garibaldini Tyr e Tikori, e si dimenticava o si ignorava che erano ben altre figure, non dico soltanto Itissa padre e figlio, ma anche Kossuth figlio, che l'Ungheria era uno stato plurinazionale quanto l'Austria e che i non magiari vi vivevano in un clima di oppressione sconosciuto in Austria, che nei 3 anni in cui fu al potere il partito cosiddetto kossuthiano dell'indipendenza fece sentire la sua mano pesante sulle nazionalità non magiare non meno dei governi precedenti e seguenti, e che in quel governo fu ministro dell'istruzione con le sue inique leggi scolastiche quel grande aristocratico conte Alberto Apponi, che fino alla sua morte nel 1933 fu considerato una specie di cavaliere di un ideale liberalismo. Si taceva o si ignorava, ammesso che si possa assumere il diritto universale di voto quale segno e misura di democraticismo, che il Regno d'Ungheria, quale che fosse il partito al potere, si rifiutò sempre, fino al suo crollo nel 1918, di concedere pienamente quel diritto, per il timore non infondato che vi potessero emergere le stirpi non magiare, mentre il suffragio universale era divenuto un diritto nell'Austria nel 1907, 6 anni prima che in Italia. Basti un episodio a sottolineare che l'Ungheria non era quella che continuavano a sognare gli epigoni del Risorgimento. Nel 1876-67, al tempo della insurrezione dei bosni-erzegovesi contro i turchi, gli studenti di Roma e di altre università italiane acclamavano agli insorti, alcuni andavano volontari a sostenere la loro causa, Garibaldi emanava proclami. Invece a Budapest gli studenti ungheresi inneggiavano ai turchi in odio ai vilipesi slavi del sud. Di questo bagaglio risorgimentale risentono ancora, e non poco, specialmente in riferimento all'Austria, i 2 unici volumi non occasionali e non disinformati che meritano considerazione, usciti entrambi sul finire del mezzo secolo di cui qui si tratta, e sono La crisi di un impero di Virginio Gaida, che è del 1913, ben noto allora, e molto più poi come megafono del fascismo, e La monarchia degli Asburgo di Alessandro Dudan, irredento dalmata, divenuto poi arrabbiato nazionalista. Opera, quest'ultima, che, pubblicata nei primi mesi del 1915, è di un certo valore ancora adesso, specialmente per il secondo volume, preciso e circostanziato, assai più del Gaida, di dati sulla struttura interna, costituzionale e amministrativa della monarchia, edito nei mesi delle lotte per l'intervento presso un editore secondario e presto uscito di circolazione, avrebbe meritato maggiore fortuna. Sono opere di 2 giornalisti che per ragioni professionali avevano lunga dimestichezza con l'ambiente viennese E dicendo giornalisti non intendo affatto diminuirne il valore. Una certa dose di giornalismo, cioè di informazione spesso ancora approssimativa e impressionistica, è forse bagaglio inevitabile della storia contemporanea per l'impossibilità di avere alla mano tutte le fonti. Ma consoliamoci, anche Tucidide e Guicciardini scrivevano di storia contemporanea. Del resto, anche i due storici meglio quotati allora per la storia dell'Austria contemporanea erano due giornalisti, Seton Watson e Wilhelm Stead. Quella storia, pressoché ignorata in Italia o svisata nel modo che si è detto, trovava invece sede accademica in Francia, presso Ernest Denis, ma una sede un po' impura, perché il Denis coltivava la storia boema, cioè un punto molto importante della storia austriaca, in funzione dell'alleanza franco-russa, vale a dire in funzione di panslavismo antigermanico. Non per nulla, uno dei padri fondatori della Repubblica Cecoslovacca, Edoardo Beneš, è stato a Parigi scolaro di Denis. Questa è un po' lunga e spero non troppo noiosa introduzione, credo non sia del tutto inutile per quell'opera auspicabile di revisione di conoscenze, di giudizi, di valutazioni sulla monarchia asburgica. E vengo all'argomento. Non che centralismo, federalismo, diritti storici siano una specie di filo rosso attorno al quale unicamente si possa cercare di sbrogliare tutta la complessa travagliata storia della monarchia nel suo ultimo cinquantennio. Se centralismo e diritti storici sono termini inequivocabili che non esigono chiarimenti, altro è per il termine di federalismo, quale si incontra negli studi di storia austriaca. Se federalismo indica, a tenore dei giuristi, l'unione politica caratterizzata dall'attribuzione di larghi poteri esecutivi, legislativi, giudiziari, non limitati nella loro validità dalla sanzione del potere centrale ad enti aggregati, e chiamiamoli pure stati come in America o cantoni come in Svizzera, bisogna subito dire che nella monarchia asburgica non ci fu vero e proprio e completo federalismo. Quello che nella storia austriaca passa sotto il nome di federalismo o tendenza federalistica è soltanto l'attenuazione momentanea di alcuni poteri centrali a favore dei Länder e dei loro organi rappresentativi, i Landtage, le Diete. È decentralizzazione, anzitutto. Sono rari i casi di uno Stato centralizzato, qual era l'Austria, che per suo impulso centrale si sia trasformato in una unione federale. Il caso della Unione Sovietica è tutto particolare e si svolge attraverso un rovesciamento totale rivoluzionario sociale. Di solito il processo è contrario, cioè un pulviscolo di stati più o meno numerosi si raccoglie in un nesso federale. Era stato il caso della Germania bismarchiana sotto l'egemonia prussiana. Anche la monarchia asburgica aveva in fondo seguito questo processo, ma in secoli ormai molto lontani, non sulla base più o meno democratica della volontà di popoli, ma secondo i principi feudalistici patrimoniali dei diritti ereditari dei principi. Non per nulla, fino al 1860, fino ai primi accenni di costituzionalismo rappresentativo, mancando un termine giuridicamente preciso per indicare le varie terre che nel corso di secoli si erano venute accentrando in mano agli Asburgo, si parlò esattamente di Erbländer. Poi si parlò di regni e paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero, al Reichsrat. Il titolo di imperatore d'Austria, assunto con la patente dell'11 agosto 1804 da Francesco I o II, perché fino al 6 agosto 1806 egli continuò a essere anche imperatore del Sacro Romano Impero, rendeva visibile quest'opera di accentramento dinastico, ma insieme anche, curiosamente, di sopravvivenze federalistiche, in quanto che si dichiarava solennemente che quel titolo del sovrano non pregiudicava i diritti dei domini ereditari e in particolare del Regno d'Ungheria. In questo senso non è erroneo dire che la tradizione storica dell'Austria era federalistica e non centralistica, ma federalistica su basi territoriali storiche, non su basi territoriali etnico-linguistiche. Il punto è questo: non essere riuscita a trasferire il federalismo dall'una all'altra base, l'averlo sostituito con un rigido centralismo, fu il vero fatta di un impasto di simbologia e di misticismo, gravò pesantemente sulla storia dell'Ungheria, anche oltre il crollo della monarchia. Su questo punto tutti gli ungheresi erano d'accordo, indipendentisti o no. Il governo rivoluzionario del 1849, alla vigilia della sua sconfitta, fece trafugare quel sacro simbolo ungherese e sotterrarlo di nascosto ai confini del paese, presso Orsova, alle porte di ferro sul Danubio, di dove fu scoperto nel 1853 e riportato solennemente a Budapest, questa volta da un governo lealista. Non è il caso di analizzare qui minutamente il significato storico della soluzione dualistica. Basterà dire che le due parti, Austria e Ungheria, intesero quella soluzione, che pur visse per mezzo secolo, in maniere assolutamente diverse. L'una, l'Austria, considerandolo un patto sostanzialmente fisso nelle sue clausole, l'altra, l'Ungheria, come una base di partenza per allargare via via la sfera della sua individualità statale rispetto all'Austria. Di qui non solo alle scadenze decennali, ma si può dire continuamente, infinite discussioni per le pretese ungheresi, specialmente nel campo della politica doganale e commerciale, sulle quote delle spese comuni, sulla richiesta di una banca di emissione distinta. Su vari punti in quel cinquantennio gli ungheresi riuscirono a strappare delle concessioni alla controparte, ma non su una, sulla pretesa che la lingua di servizio nell'esercito, che era la tedesca, meno che nei reparti della milizia territoriale ungherese di Honved, che era l'ungherese, come era la croata per gli analoghi reparti croati, divenisse la ungherese nei reggimenti dell'esercito comune formati principalmente da ungheresi. Su questo punto l'imperatore fu irremovibile, nella non erronea convinzione che l'armata era il cemento fondamentale della monarchia. Quella soluzione non fu senza influenza in varie circostanze anche sulla politica interna della Cisla Itania, ma ovviamente assai più sulla comune politica estera. Caduto il Beust e venuto agli estri Londrasi, il collegamento sempre più stretto con la politica estera tedesca, fino al punto di apparire talvolta quasi una caudataria della Germania, fu caldeggiato soprattutto dagli ungheresi, e non solo per il fatto che dei 10 ministri austro-ungarici degli esteri, che erano, va ricordato, anche ministri della casa imperiale, da Ondrasi padre ad Ondrasi figlio, che fu l'ultimo, 5 furono ungheresi o legati agli ungheresi. Quanto alla questione poi se il dualismo in definitiva giovasse più sotto i suoi molteplici aspetti più alla parte austriaca o a quella ungherese, la risposta era controversa. Tutte e due le parti si dichiaravano le vittime. Gli ungheresi, anzi, prospettando la pittoresca similitudine della mucca a cavalcioni sul confine, che bruca l'erba in terra ungherese, ma viene multa e lascia anche il letame in terra austriaca. Un punto mi sembra certo: il dualismo, la concezione che gli ungheresi avevano del loro Stato, escludeva che vi potesse spuntare ed allineare una qualche forma di federalismo. I presupposti storici, quindi i diritti storici, erano, la Transilvania, paese plurinazionale, se mai ce ne fu uno, nel quale i romeni, la maggioranza, si intrecciavano inestricabilmente con ungheresi e con tedeschi, sassoni e luterani, per non parlare degli zingari, aveva avuto per 3 secoli come principato una storia a parte. L'elemento magiaro vi aveva spadroneggiato, ma anche qui, nell'Ottocento, la nazionalità più vilipesa e anche socialmente più bassa, quella romena, aveva principiato a prendere coscienza di sé. Si era visto nel 48-49. Romeni di Transilvania, insieme con i sassoni, avevano svolto un'azione analoga a quella dei croati. Avevano sostenuto il centralismo austriaco con le armi contro l'indipendentismo ungherese kossuthiano. Ma ne erano stati pagati allo stesso modo, con la sottomissione agli ungheresi. Dal gennaio 66 non esiste più una dieta transilvana. Tutto è incentrato nel Parlamento ungherese. Nel luglio 1868 il ministro ungherese della giustizia Horvat ha parole minacciose contro le nazionalità che non fossero prone al governo ungherese. I pochi deputati romeni di Transilvania rispondono disertando le sedute del Parlamento ungherese, ma giova poco o nulla, solo valore dimostrativo. Gli aventini non hanno mai portato fortuna. Cadono nel vuoto le richieste romene dall'81 al 92 di ripristinare l'individualità transilvana, di introdurre la lingua d'ufficio romena nei paesi abitati da romeni. Programma quindi moderatamente federalistico, nel senso restrittivo che si è detto, e che esaspera i magiari, anche perché i romeni si erano rivolti con le loro rivendicazioni non al re d'Ungheria, ma all'imperatore d'Austria, del quale, a stretto diritto, non erano sudditi. In disperazione di causa nasce un irredentismo romeno. Volgono gli occhi al vicino regno, dove nel 1885 è fondata, con chiari intendimenti redentistici, una liga culturale, che dopo il 910, sotto la guida dello storico Nicola Iorga, riprende ed intensifica la sua attività. È vero, ufficialmente la Romania è alleata dell'Austria-Ungheria, ma è un'alleanza quasi personale del re Carol I, non condivisa dal sentimento pubblico. Romeno di Transilvania è quel Aurel Popovici, progettista di una ricostituzione della monarchia su base federalistica, a cui accennerò poi. Ma né questo, né la formazione nel 1906 in sede parlamentare di una unione degli oppressi, cioè dei pochi deputati romeni, serbi e slovacchi, pochi perché in Ungheria il voto era palese, a voce, giova a qualche cosa di fronte alla maggioranza schiacciante e prepotente del Parlamento ungherese. Quella maggioranza ungherese può essere, ed è in questi anni, divisa da rivalità furibonde che danno luogo alle scenate epiche nell'aula con l'ostruzionismo, con lancio di invettive, con colpi di pistola, con l'intervento ormai consueto delle forze militari contro i deputati riottosi. Ma quando si tratta di opporsi a romeni, a serbi, a slovacchi, quei deputati irascibili fanno fronte unico. L'unità della corona ungherese non si tocca. Hanno escogitato una nuova, piuttosto oscura nomenclatura politica. La popolazione del regno, quale che sia la lingua sua e la sua coscienza politica, è la nazione ungherese. Le altre non sono altro che nazionalità. Con questo espediente di bassa filologia si crede di aver tagliato la testa al toro. Il culto dei diritti storici agisce anche rispetto ai croati, ma non in funzione federalistica, bensì dualistica, cioè il regno trino di Dalmazia, Croazia e Slavonia, lontana istituzione medievale mai realizzatasi concretamente perché la Dalmazia ebbe sempre fino al 1918 una vita a sé, si trovava rispetto al regno d'Ungheria in una posizione storico-giuridica analoga a quella del regno d'Ungheria rispetto all'Austria. Perciò si parlava, fra i costituzionalisti, di subdualismo, ma con una profonda differenza. Mentre l'Ungheria, Transleitania, si trovava su un piede di parità e talora anche di preminenza rispetto all'Austria, Cisleitania, il regno di Croazia e Slavonia, era in realtà subordinato a Budapest. Aveva sì una propria dieta a Zagabria, il Sabor, mandava sì i suoi deputati al Parlamento di Budapest, saliti a una quarantina dopo che la Croazia ebbe inglobati gradualmente i cosiddetti confini militari, da cui si reclutavano quei famosi 11 reggimenti, alcuni dei quali, prima e dopo il 48, deliziarono con la loro presenza in Lombardo-Veneto. Ma quei 40 deputati potevano interloquire solo nelle questioni inerenti alla Croazia. Il Regno Trino non aveva un proprio ministero come l'aveva l'Ungheria. Il potere esecutivo era nelle mani del Bano, una specie di viceré, che era nominato dal governo ungherese su proposta del Parlamento ungherese. Poteva essere un croato e infatti negli anni 60 fu Bano, il poeta Mazuranić, che ha un posto ragguardevole nella letteratura croata. Ma i successivi furono tutti magiari, compreso quel terribile conte Kun Hedervari, stretto parente dei Tissa, che tenne l'ufficio di Bano per 20 anni, dal 1883 al 1903, con inflessibile energia, insieme con tutte le arti della seduzione e della corruzione. Non che perciò il governo ungherese tentasse una magiarizzazione dei croati, come la tentava e la perseguiva nei confronti dei sudditi allogeni o alloglotti, con tolleranza sul Riedmann, romeni, serbi, slovacchi, ruteni e dai primi del secolo anche degli italiani di fiume. Ci fu un conflitto circa il personale magiaro della linea ferroviaria Budapest-Zagabria-Fiume che attraversava la Croazia e dove si voleva imporre la lingua di servizio magiara. Una questioncella, in fondo, ma non di capitale importanza, ma alla quale il radicalismo nazionalistico del tempo dava proporzioni immense. Covavano sotto la cenere questioni e tendenze ben più importanti. Prima di ogni altro la tendenza, nata col nome di illirismo già quasi un secolo prima e mirante a chiudere in un blocco politico e culturale e nazionale tutti gli slavi meridionali della monarchia, non solo i croati. Vivevano nella Voivodina, nel Banato, nella Bosnia, nell'Erzegovina, nella Dalmazia meridionale, forti nuclei di serbi. La diversità religiosa, greci ortodossi e anche musulmani, li aveva tenuti staccati, spesso in ostilità con i croati cattolici. In queste terre, anche più che la lingua, era la religione il segno discriminante. Ma erano anche forti i motivi che tendevano a superare queste distinzioni, che erano poi spesso dei veri e propri dissidi. La distribuzione territoriale dei croati, il grosso nella Croazia Slavonia, cioè nella Transleitania, ma un'altra parte quasi altrettanto numerosa, circa 1.700.000, sparsa fra Dalmazia, Istria, cioè Cisleitania, e Bosnia-Erzegovina, quest'ultima in amministrazione comune austro-ungherese, non facilitava certo una soluzione in senso federalistico delle loro aspirazioni unitarie, perché avrebbe dovuto spezzare il fondamento dualistico della monarchia. E le difficoltà aumentavano se in quell'unione si volevano includere anche i serbi, ma le difficoltà furono superate, almeno in via programmatica, con la cosiddetta risoluzione di Fiume del 2 ottobre 1905, un atto capitale nella storia del movimento jugoslavo. Era stata promossa da uomini politici croati della Dalmazia, i quali in questo modo riprendevano sì un programma politico vecchio di già più che mezzo secolo, quello degli unionisti contro gli autonomisti di tomaseiana memoria, ma lo allargava trasformandolo completamente, ottenendo l'adesione non solo dei croati e della Croazia e Slavonia, ma anche di quelli dell'Istria e della Bosnia e, ciò che più conta, la simpatia, con qualche incertezza, dei serbi di Dalmazia, d'Ungheria e di Bosnia ed Erzegovina. Di tutti gli slavi meridionali, solo gli sloveni rimasero estranei alla risoluzione di Fiume, per la loro situazione particolare che qui non è il luogo di analizzare. La tendenza implicitamente federalistica, se non ancora separatista, della risoluzione di Fiume rimase per allora allo stato embrionale, ma era chiaro che per la sua realizzazione politica si poneva l'alternativa: o una soluzione federale con gli Asburgo o contro di essi, riconoscendo una funzione nazionalmente aggregatrice da Piemonte balcanico al Regno di Serbia. E certi festeggiamenti a Belgrado nell'estate 1906, presenti risoluzionisti di Fiume, erano già su questa linea, come nello stesso tempo a Ragusa le fredde accoglienze all'arciduca ereditario Francesco Ferdinando e quelle entusiastiche invece al principe ereditario Danilo del Montenegro. Nelle elezioni per il Sabor di Zagabria, dove soltanto il partito dei contadini dei fratelli Radic e quello clericale conservatore del dottor Frank erano antirisoluzionisti, i risoluzionisti stravinsero 57 seggi su 88. Tutto il mondo jugoslavo è in fermento, e non solo in seguito all'annessione della Bosnia Erzegovina. Il centralismo austro-ungherese reagisce piuttosto goffamente nel corso del 1909 con il processo o processi di Zagabria e con quello intentato dallo storico Friedrich Jung. La lotta politica assume toni di radicalismo estremo. Fra il giugno 1912 e il maggio 1914, per tre volte giovani croati o serbi attentarono alla vita dell'ungherese Bano di Croazia, preludio alle rivoltellate di Sarajevo. In conclusione, il federalismo come rimedio specifico per sanare le lotte nazionali aveva fatto fallimento. Il centralismo e i diritti storici che a questo fornivano le basi ideologiche erano rimasti intatti nella Translaitania. Ma passiamo alla Cislaitania, all'Austria, come veniva detto correntemente, l'altro termine non fu mai popolare. Qui, nell'euforia rivoluzionaria del 48-49, erano venute a galla nel Parlamento di Kremsi anche idee di ricostruzione dell'impero su basi federalistiche. Poi, nel successivo periodo assolutistico della reazione, tutto era stato messo a tacere. Benché quell'assolutismo rifiutasse il principio nazionale e si fondasse tutto su principi dinastici e sovranazionali, nel fatto si manifestava dappertutto, tranne che nelle terre italiane, che perfino il pantedeschismo di Giuseppe II aveva risparmiato, come egemonia dei tedeschi nella lingua dell'amministrazione, anche se non completamente nel personale dell'amministrazione, e più generalmente nella cultura. Quando i tedeschi dell'Austria si presentavano come il Kulturvolk superiore che aveva irrorato della sua civiltà in varia misura le altre nazionalità della monarchia tranne l'italiana, non avevano tutti torti e la storia dava loro sostanzialmente ragione. Effettivamente il germanesimo, dai tempi post-carolingi in poi, aveva compiuto progressivamente nella Mitteleuropa, dal Baltico all'Adriatico, dalle Alpi ai Carpazi e oltre, un'opera di penetrazione civilizzatrice che non si può non considerare storicamente grandiosa. Penetrazione di guerrieri feudatari, di ecclesiastici, di mercanti fondatori di città, di coloni, di soldatori dei campi. Tutto questo aveva fatto sì che nei tempi di cui discorriamo, nuclei spesso molto consistenti di tedeschi, e non avventizi, ma insediati da secoli, fossero presenti in molti dei länder della monarchia, dalla Bukovina alla Galizia, alla Slesia austriaca, alla Boemia, alla Moravia, alla Stiria, alla Carniola, alla Carinzia, al litorale. Vale a dire che 9 sui 17 Länder della monarchia erano plurinazionali, anzi 10 se contiamo gli italiani del Trentino. Era immune da presenze tedesche la Dalmazia, perché qui aveva operato, in questa azione che ora si direbbe di acculturazione, la civiltà italiana di Venezia. Contro questa diaspora tedesca, che talora, come in Boemia, ai margini dei Sudeti, aveva contiguità territoriale con la patria tedesca, ma altrove rappresentava per lo più delle isole linguistiche, ma dappertutto economicamente e socialmente egemoniche, cominciò a reagire sempre più energicamente il ridesto sentimento nazionale ottocentesco. Non è il primo caso, anzi è normale, specialmente fuori d'Europa, che gli alunni si rivolgano contro i pedagoghi che li hanno culturalmente nutriti, ma spesso talvolta anche sfruttati. Perché spesso l'ideologia nazionale si intreccia con motivi economici. I tedeschi sono spesso i grandi proprietari fondiari, i grossi mercanti, magari nella veste di ebrei tedeschizzati. Spesso è un'agitazione della campagna contro la città. L'Austria iniziava appena allora, a Vienna e in qualche altro centro minore, ma specialmente in Boemia e Moravia, nell'industria tessile e siderurgica, la sua rivoluzione industriale. Dapprima i centri industriali tedeschi avevano operato un'assimilazione degli elementi alloglotti provenienti dalla campagna. Poi questa azione si era venuta a poco estinguendo e dall'ultimo decennio del secolo in poi avveniva piuttosto il contrario, che le città fino allora tedesche o con una forte percentuale tedesca si affollassero di elementi alloglotti non più assimilabili, così a Praga, a Brünn, così a Trieste in parte rispetto agli italiani. In questa situazione nazionalmente fluida cadde l'evento di Sadova e la estromissione dell'Austria dalla Germania. Fu un colpo di fulmine per i tedeschi dell'Austria. Si sentirono posti di fronte a responsabilità storiche nuove. Fino allora erano stati, non politicamente ma culturalmente, sentimentalmente, un unico blocco con i connazionali di Germania, Grossdeutschland. Ora dovevano fronteggiare da soli un coacervo di popoli da essi poco considerati, ma che nell'insieme superavano numericamente i tedeschi. Già nel 1843 un anonimo pamflettista che pubblicava Lipsia si domandava: «Ist Österreich Deutsch?» Una risposta spassionata doveva essere ora «No». D'ora in poi i tedeschi dell'Austria sono sulla difensiva. Non illuda qualche episodio marginale come qualche puntata bavaro-tirolese verso qualche modestissima isola linguistica tedesca qui nel Trentino, o della marina da guerra nel comune di Pola, o l'attività delle varie Südmark, Schulverein o Volksbund. È un'azione difensiva, è una difensiva che ad agio sta perdendo le posizioni. Non è detto che la militare dottrina clausewitziana della concentrazione delle forze sia applicabile pari pari ai sistemi politici ed amministrativi e dia garanzia di sicuri risultati. Quel rigoroso centralismo tedesco che aveva fatto le sue prove fino al 1860 in regime assolutistico sembrava il miglior sistema anche poi ai liberali tedeschi in regime costituzionale. E infatti tutti i primi ministeri chiamati dall'imperatore a reggere la nuova Austria costituzionale, dopo il compromesso con l'Ungheria, Eduard Taffe, Carlos Auersperg, di nuovo Taffe, Hasler, Potocki, furono tutti centralisti e liberali. Le resistenze anticentralistiche, non oserei dire federalistiche, erano annidate, almeno inizialmente, non nelle nazionalità non tedesche, ma in gruppi anche principalmente tedeschi su basi clericali e feudali, cioè del grande possesso fondiario appena indebolito, non debellato dalla rivoluzione del 48. Qui operavano motivi ideologici ed economici, ma anche fortissime tradizioni storiche. Tutto risaliva, in sostanza, alla giustamente famosa drammatica sanzione emanata dall'imperatore Carlo VI il 19 aprile 1713, con la quale egli, nella pienezza dei suoi poteri sovrani, stabiliva l'ordine di ereditarietà anche per linea femminile e la indivisibilità dei possessi asburgici. L'atto non era inteso come una specie di patto fra sovrano e sudditi. Tuttavia, negli anni successivi, egli lo presentò alle diete provinciali perché ne prendessero conoscenza, una procedura che, tuttavia, poteva aprire la via ad essere intesa come approvazione di quell'atto sovrano, per l'osservanza del quale le diete erano invitate, se necessario, a versare il loro sangue. Così l'intesero le diete, tutte insistendo perché l'atto non pregiudicasse i loro diritti. I sentimenti autonomistici erano così forti che la dieta del fedelissimo Tirolo deplorò che il nuovo atto le potesse togliere l'eventualità di riavere un proprio principe. I vescovi di Trento e di Bressanone dichiararono che, come principi mediati dell'impero, la cosa non li riguardava. Ma ovviamente, stricto iure, non riguardava le terre aggiuntesi poi ai domini austriaci, la Galizia e l'Odomiria, la Bucovina, il Salisburghese, l'Istria ex Veneta, la Dalmazia. Ma nel fatto, tutte queste furono considerate indivisibilmente unite dalla monarchia asburgica e la drammatica sanzione fondamento giuridico immutabile di essa. Infatti, a parte il caso della maggior parte della Slesia andata perduta per le vittorie di Federico II, i confini territoriali di queste Länder non subirono la minima modificazione, tranne una insignificante nell'Occidental, fino al crollo totale della monarchia. Nei più di questi Länder era vivacissima una specie di patriottismo provinciale, legatissimo alle sue tradizioni, alle sue prerogative. Valga il caso dell'alta aristocrazia fondiaria boema, che non era nazionalmente né tedesca né ceca, ma boema e basta. Ora, la storia aveva fatto sì che i più di questi Länder avessero una popolazione linguisticamente mista. Ciò che non aveva creato grossi problemi nel cosmopolitico Settecento, ma ne creava dei grossissimi nel furente liberal nazionalismo del secolo XIX. Una soluzione federalistica, nel senso di divisione dei Länder secondo confini etnico-linguistici, già di per sé difficilissima, perché spesso le varie difficoltà si intersecavano, era inconciliabile col principio dell'intangibilità dei Länder. Per questo la dieta provinciale del Tirolo fu contraria alla concessione di una anche modesta autonomia al Trentino. Per questo non fu mai possibile risolvere il problema più arduo, quello costituito dai cechi, sul quale si può dire si accentrò l'agitata vita politica della monarchia nell'ultimo mezzo secolo. Qui il patriottismo boemo trovava le sue radici in un diritto storico imponente, nei diritti intangibili della corona di San Venceslao, fiaccati ma non aboliti alla Montagna Bianca 2 secoli e mezzo avanti. Essi si estendevano, oltre che sulla Boemia, sulla Moravia e su ciò che rimaneva della Slesia austriaca, non sulla Slovacchia, che era compresa nella corona d'Ungheria e la cui parentela con i cechi è, direi, quasi scoperta di tempi più recenti, nata più nell'emigrazione all'estero che non nella Slovacchia stessa. All'alba della vita costituzionale in Austria, le diete provinciali, i Landtage rivitalizzati, avevano un peso politico notevole. I deputati, come è stato già osservato varie volte in queste nostre riunioni, i deputati al Parlamento centrale di Vienna, al Reichsrat, allo Schmerling Theater, come dicevano beffardamente i qualunquisti viennesi prima che fosse costruito l'imponente nuovo palazzo, non uscivano da elezioni dirette, ma erano designati dalle diete, e grazie al sistema elettorale per curie, distinte secondo il censo, cioè un sistema rappresentativo ristrettissimo, i tedeschi avevano la maggioranza in quasi tutte le diete, tranne in quelle della Galizia, della Dalmazia e in quelle tre del litorale. Perciò la stragrande maggioranza del Reichstag, ora, negli anni 70, era tedesca, ma non una maggioranza compatta, anzi profondamente divisa fra liberali e clerico-feudali conservatori. I primi prevalevano, ma non erano ben visti negli ambienti di corte, civili, militari, ecclesiastici, arciduchi e arciduchesse, che erano poi quelli che suggerivano all'imperatore la formazione di ministeri, non necessariamente presi fra i parlamentari, perché secondo le leggi costituzionali fondamentali esse rispondevano al sovrano, non al Reichsrat. I liberali tedeschi di questi anni erano dei bravi patriotti tedeschi, non insensibili alle recenti strepitose glorie dei fratelli del nuovo Reich di Germania, ma non propriamente degli irredentisti separatisti tedeschi. Non siamo ancora alle estemporanee fortune dell'antisemita e pangermanista Georg von Schönerer e del suo zelante seguace Karl Hermann Wolff e del movimento Los von Rom. Certo, vogliono la laicizzazione dello Stato, riscattarlo dall'asservimento al concordato del 55, introdurre innovazioni nel diritto matrimoniale, nell'insegnamento scolastico. Ed è su questi punti che principalmente si scontrano con i clerical feudali conservatori. Anche l'unico brevissimo esperimento austriaco che passa per federalistico, sempre nei limiti già detti del termine, è anche in funzione di questa lotta fra liberali e clerical conservatori, oltre che in riferimento al problema delle nazionalità. È il ministero Hohenwart Scheffle, durato appena poco più di 7 mesi, dal febbraio all'ottobre 1871. La figura eminente non è Loewart, ma lo Scheffle, non austriaco, ma württembergese, illustre economista dell'Università di Vienna, molto aperto ai problemi sociali, critico del capitalismo ma anche del socialismo, in un'opera che fu molto conosciuta anche in Italia. Il ministero non è un programma in qualche modo federalistico che coinvolgesse tutta la Cisleitania. Lo concentrò sulla Galizia e la Boemia. Per la Galizia la cosa era relativamente facile. Lì la lotta nazionale non era fra polacchi e tedeschi, non numerosissimi, molti ebrei yiddish tedeschizzati, ma fra questo gruppo polacco-tedesco e i ruteni, in gran parte masse rurali appena ora emergenti alla vita politica. Un trattamento di favore ai polacchi fu una costante nella politica austriaca. La dieta di Galizia ebbe poteri speciali, più ampi degli altri Länder. Almeno un ministro polacco fu sempre presente in tutti i ministeri, come nobili polacchi nel corpo diplomatico. Polacchi come Potocki e Badeni furono addirittura presidenti dei ministri, mentre mai ce ne furono, nemmeno in pectore, di cechi, benché i cechi nella monarchia fossero 6,5 milioni rispetto ai 5 milioni di polacchi. Verso i cechi il governo Hohenwart fece il massimo sforzo per conciliarli con i tedeschi, il che voleva dire togliere ai tedeschi di Boemia e di Moravia l'egemonia di cui godevano. Lo stesso sovrano era in questo momento su questa linea politica. In Austria fu sempre inconcepibile una politica che non fosse approvata dall'imperatore. Kaiserminister si chiamava da sé il presidente Taaffe, il quale imperatore, infatti, si spinse molto oltre, proponendo che, sono sue parole, memore della posizione costituzionale della corona di Boemia e consapevole dello splendore e della potenza che questa aveva conferito ad Asburgo, proponeva che non solo tutti gli impiegati di Boemia dovessero conoscere le due lingue, tedesca e ceca, ciò che avrebbe aperto le vie degli impieghi più ai cechi, perché al contrario dei cechi per il tedesco, pochi erano i tedeschi che sapessero il cieco. Proponeva ancora che la dieta boema fosse ripartita in curie nazionali, pur rimanendo unica, ma in maniera che l'una non potesse soverchiare l'altra. Tutto ciò era già molto, ma i cechi, che si sentivano la nazione in crescenza, anche demografica, e ciò era vero, aggrappati al mito della corona di Boemia, furono intransigenti, rispondendo con i fundamental article che, se accettati, avrebbero conferito alla Boemia una posizione costituzionale non molto diversa da quella dell'Ungheria rispetto all'Austria, un trialismo. Un'agitazione enorme si manifestò dappertutto fra i tedeschi. Nel grande Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 71, di fronte al rifiuto dei cechi di moderare le loro pretese, il federalismo fece naufragio e dopo pochi giorni con esso il ministero Horvath. Questo abbozzo di federalismo non trovò più un duplicato nell'ulteriore quasi mezzo secolo di vita della monarchia. Certo, la vita dei ministeri austriaci continuò a essere difficile, ma non poi più difficile che in altri paesi d'Europa. Nel mezzo secolo fra il 68 e il 918 se ne susseguirono 27, ma nello stesso tempo nel Regno d'Italia se ne ebbero 43 e nella Terza Repubblica Francese 64, il che vuol dire che lo stato febbrile costante non è poi la fine di un uomo e nemmeno di uno stato. Del resto, in questo panorama rotante di ministeri ce ne fu uno molto longevo, 14 anni, quello del conte Taffe, compagno d'infanzia dell'imperatore e abilissimo nel destreggiarsi con piccoli e grossi favori fra maggioranze fluide, ma sostanzialmente clerico-slave, affiancate da gruppi tedeschi derivanti dallo sbriciolamento della vecchia liberale Verfassungspartei. Meno abile di lui fu il polacco presidente Casimiro Badeni, che imprudentemente indusse a concessioni in fatto di lingua a favore dei cechi con grande furore dei tedeschi, perché nella situazione austriaca era fatale che le concessioni fatte ad uno significassero danno per un altro. La stessa terminologia portata in campo in queste interminabili discussioni sulle lingue era un rompicapo. Che cosa erano con precisione nel loro reciproco significato? La Muttersprache e la Umgangssprache e la Vermittlungssprache e la Landesübliche Sprache e poi la Amtssprache distinta in innere ed äußere. Ogni anche piccola concessione fatta ad uno era contagiosa. Le Sprachverordnung in Badeni diedero subito aggancio al deputato sloveno Susterci per chiedere che quelle ordinanze fossero applicate anche nei Länder abitati da sloveni, da croati, da ruteni. Si gridò che la Costituzione era violata, che ci si avviava sulla via scivolosa del federalismo. I partiti tedeschi, compreso il nuovo bellicoso Partito Cristiano Sociale del dottor Lueger, idolo di Vienna, il bel Carlo, fecero blocco in un'organizzazione di difesa della Deutsche Gemeinwirtschaft, radicalmente centralistica. Ma una vena vagamente federalistica la covavano un po' tutti, perché tutti avevano una mentalità provinciale, vedevano il problema dei rapporti fra le varie nazionalità nel quadro del proprio land, non nel quadro generale della monarchia, tranne un partito, il socialista, di cui dirò qualche cosa poi. Così potevo vedere, mi è stato già ricordato, che su una questioncella locale, quasi un po' comica, vista fuori dall'atmosfera surriscaldata del tempo, l'aggregazione di qualche classe di ginnasio slovena al ginnasio tedesco di Zilli in Carniola potesse cadere un ministero. Così poteva avvenire che per un ridicolo incidente nazionale locale fosse sollevata nell'88 nel Reichstag dal deputato croato dell'isola di Velia Vitezic una discussione così furibonda per cui si dovette chiudere la seduta fra gli schiamazzi. Certo, la vita parlamentare era mutata dal tempo in cui il Reichsrat era semplicemente una emanazione delle diete provinciali, c'era stata tutta un'evoluzione nelle leggi elettorali, da quella dell'aprile del 73 che introduceva il voto diretto per il Parlamento, non per il tramite delle diete, da quella dell'ottobre 82 che diminuiva a 5 fiorini l'imposta per avere il diritto di voto nella quarta curia, da quella dell'aprile 1896 con l'istituzione di una quinta curia non più su base censitaria, ma alla quale assegnava soltanto 72 seggi contro i 353 attribuiti alle classi privilegiate, fino a quella del gennaio 1907 che accoglieva il principio del suffragio universale diretto, tuttavia accomodato con la sapiente formazione, ineguale per numero di votanti, dei collegi elettorali. Ma in sostanza era una vera democratizzazione della vita politica austriaca, conseguita attraverso lotte durissime, perché ogni ritocco delle leggi fondamentali del dicembre 1867 richiedeva la maggioranza dei due terzi, e una democratizzazione che corrodeva ad agio l'egemonia dei tedeschi nei Länder plurinazionali e del resto anche quella degli italiani nella Dalmazia e nel litorale. Un fenomeno analogo si verificava anche nelle diete, benché ivi il diritto rimanesse sempre su basi censitarie. Nel 1883 gli sloveni guadagnavano la maggioranza nella dieta di Carniola, nello stesso anno i cechi in quella di Boemia. Le minoranze si battevano con l'astensionismo, per cui avvenivano casi curiosi che, per esempio, i tedeschi disertassero la dieta di Boemia, ma non il Reichsrat, e i cechi disertassero per certo tempo il Reichsrat, ma non la dieta di Boemia. Poi, alle minoranze, l'astensionismo non sembrò più mezzo adeguato. Il radicalismo contagiò un po' tutti. In Boemia e in Moravia i vecchi capi cechi, i seguaci di Palacci e del suo genero Rieger, furono soverchiati dalle nuove generazioni dei giovani cechi capeggiati dai Gregor e dai Kramarš. A partire dal finire del secolo, l'astensionismo fu sostituito dall'ostruzionismo parlamentare, dando luogo alle giostre oratorie dei recognomen della parola, capaci di discorrere per 14 ore di fila. Fu questo Parlamento spettacolare che accreditò sempre più all'estero l'idea della monarchia come malato inguaribile. I ministeri si avvicendavano tutti, anche più capaci, quello Körber, quello Beck, applicando in fondo il recipe di Taaffe, il Fort Wurstelm, il tirare a campare, secondo il motto a lui attribuito, fra i quali espedienti c'era anche l'uso, ma moderato, del paragrafo 14, non troppo dissimile dal nostro decreto legge, specie per l'approvazione dei bilanci e delle annuali leggi militari sul contingente delle reclute. Il tardo roditore delle lotte nazionali avrebbe dovuto essere estraneo alla ideologia socialista e alla prassi del Partito Socialdemocratico. Il movimento operaio, in rapporto alla progrediente industrializzazione, ma non solo per questo, si affermava sempre più. Da prima ostacolato e combattuto, poteva festeggiare per la prima volta il primo maggio nel 1890, tanto in Austria quanto in Ungheria, dove tuttavia era assai più debole. Solo il Partito Socialdemocratico aveva una visione globale del problema delle nazionalità in Austria, ma in un modo singolare, svalutandolo, almeno sulle prime, considerando la questione delle nazionalità una questione messa avanti dalle borghesie capitalistiche, ma non interessante il proletariato operaio, che aveva ben altri interessi sociali da tutelare e sui quali la classe operaia poteva trovarsi concorde, quale che fosse la sua particolare nazionalità. Così, nel congresso socialista di Brno, nell'autunno del 1900, si puntò tutto sulle rivendicazioni di classe, sul suffragio universale come strumento per affermarle. Si auspicò sì anche alla trasformazione dell'Austria in uno Stato federale democratico delle nazionalità, alla sostituzione delle regioni storiche in suddivise regioni nazionali autonome, ma tutto in linea molto generale, senza approfondire gli ispidissimi problemi che quelle trasformazioni avrebbero inevitabilmente suscitato. Il Partito Socialdemocratico aggregava attorno a sé i socialisti organizzati di tutte le nazionalità, tedeschi, cechi, polacchi, italiani, eccetera, ma le sue guide intellettuali erano tedesche, erano gli Adler, i Renner e poi i Bauer, i Ellenbogen, socialisti riformisti, austro-marxisti, come si disse e come si vide nel quasi contemporaneo quinto congresso dell'Internazionale Socialista a Parigi. Ma nella realtà delle situazioni locali, questo internazionalismo socialista non poteva sottrarsi interamente alle sollecitazioni nazionali. Già verso il 1906 la solidarietà socialista ceco-tedesca vacilla. Nel 1910 il divorzio è consumato, con punte nazionali molto accentuate nel capo socialista ceco Klofač. Qualcuno ha parlato addirittura di nazionalsocialismo ceco. Anche nel cantuccio del Trentino, che non ha ancora un deputato socialista, il socialista Cesare Battisti sottolinea nel suo socialismo la nota irredentistica, mentre rimane imperturbabilmente internazionalista il socialismo italo-sloveno di Trieste. Non deve meravigliare che il problema della convivenza delle nazionalità in quella specie di grande famiglia riottosa che fu la monarchia asburgica sia stata accompagnata da tutta una fioritura ad intermittenza di scritti sul federalismo come antidoto per sanare quelle lotte. Ma non è il caso di soffermarci troppo. Sono tutte elucubrazioni intellettuali interessanti che però non incisero per nulla sulla realtà politica del tempo, né anticiparono soluzioni successive, perché la soluzione catastrofica finale si concluse, come tutti sanno, non con una soluzione federale che conservasse l'unità statale della monarchia, ma con il suo smembramento. E non si fa la storia del non accaduto, del solo pensato che non ha creato nulla. Tuttavia, quegli scritti sono significativi, perché si muovono tutti nel riconoscimento della necessità della persistenza della monarchia, sia pure su basi trasformate. Non si voleva spezzare la famiglia, ma impedire che uno dei figli facesse troppo il prepotente, perché non si può negare che quella famiglia, impersonata del vecchio imperatore, era non solo apprezzata per una certa somma di benefici che essa dava a tutti, regolando la vita associata, ma era, nei più, anche amata. Alcune di quelle teorizzazioni federalistiche risalivano a tempi ormai lontani, al 48, a un croato Ostrosinski, a un Adolf Fischhoff, che fino alla sua morte nel 93 intervenne varie volte con gli iscritti a sostenere le sue idee, al gruppo stiriano di Aussee, che si agitò un poco negli anni 70, perfino a un alto burocrate del Ministero degli Esteri, il solitario e inascoltato barone Heichhoff. In tempi più recenti, specialmente negli anni attorno al 1905-1907, ed è significativo sugli anni in cui l'internazionalismo socialista comincia a dissolversi, a un democratico socialisteggiante, quali Richard Karbacz, a socialisti quali Karl Renner e Otto Bauer, a un romeno di Ungheria, Aurel Popovici, che per un po' di tempo attrasse l'attenzione partecipante dell'arciduca ereditario Francesco Ferdinando. Però tutti Cassandre inascoltate. Chiuso provvisoriamente il Parlamento dal presidente Sturgic nel marzo 1914, divenuta definitiva quella chiusura per lo scoppio della guerra, abbandonati i poteri anche civili allo stolto autoritarismo dei militari, la monarchia si avviò alla catastrofe. La stenta ripresa parlamentare nella primavera del 17 mostrò quanto in quegli anni di guerra la vita politica ammutolita si era profondamente trasformata. Concessioni in senso federalistico che, se fatte un tempo, avrebbero forse, e sottolineo forse, soddisfatto le aspirazioni delle nazionalità tedesche e non magiare, ora non bastavano più. Le dichiarazioni dei capi partito al Reichsrat furono eloquenti al riguardo. Solo l'armata teneva ancora. Per quanto vulnerata, ma non profondamente, dalla infedeltà di qualche reparto cieco, ma nei primi mesi della guerra, per quanto lavorata subdolamente dalla propaganda dei prigionieri reduci dalla Russia bolscevica, per quanto lacera e affamata, tuttavia aveva mostrato ancora l'efficienza di un tempo nell'offensiva, seppur fallita, sul Piave nel giugno del 18. Era ancora vero il motto spesso ripetuto, ricordato anche dal collega Bandusca, del 48 del Greifswald al maresciallo tedesco Radetzky in Deinemlager in Österreich. Soltanto il 17 ottobre 1918, quando ormai tutto, anche la resistenza militare, andava a rotoli, il giovane, inesperto, candido imperatore Carlo I, sinceramente fervoroso di pace, usciva con un manifesto ai suoi popoli promettendo loro una nuova monarchia su base federale. Troppo tardi. Essi non lo ascoltavano più. Ognuna delle nazionalità, attraverso l'opera degli emigrati, si era assicurata complicità, adesioni, alleanze con le potenze vincitrici. Era un fuggi-fuggi generale. Solo gli ungheresi e i tedeschi d'Austria non trovarono amici, sostenitori fra i vincitori e pagarono per tutti. Confesso di essere stato imprudente nel proporre questo tema alla vostra benevola attenzione e anche tolleranza, ma ora volgo alla fine. Un tema che esigerebbe ben altro approfondimento e che io, per la tirannia del tempo, ho dovuto spesso semplificare, schematizzare, ridurre a nozioni elementari, con tutti gli inconvenienti che ne conseguono. È noto che la scomparsa della duplice monarchia ha lasciato una scia di rimpianti, di nostalgie, perfino fra alcuni di quelli che hanno contribuito ad abbatterla, considerando il vuoto che essa lasciava come unità economica mitteleuropea, come spazio europeo che apriva nuovi problemi non meno gravi di quelli che si credeva di aver risolti per sempre. Ma è perfettamente vano indugere a rimpianti e almanaccare su ciò che si pensa potesse accadere, ma che poteva anche non accadere. In questi rimpianti c'è la giusta valutazione di certe qualità molto positive dell'Austria costituzionale di dopo il 68, la buona amministrazione, sostanzialmente legalitaria, la molto progredita legislazione sociale, la semplicità ed efficienza del sistema fiscale, la praticità della procedura giudiziaria, eccetera, eccetera. Certo, ci sono anche le ombre, gli arbitri della polizia, spesso però più molesta che feroce, perché di rado portava a pene detentive sensibili, i limiti troppo stretti al diritto di riunione e di associazione, gli interventi troppo frequenti e poco intelligenti di procuratore di Stato a censurare la stampa e Siviglia. È difficile poter soppesare il pro e il contro fra queste luci e queste ombre. È fin troppo naturale che l'irredentismo italiano, fatto ormai storicamente conchiuso, fosse portato nella sua passionalità a ingigantire le ombre, a smorzare le luci. Ma non è proprio nella terra di Battisti che verrà fatto di rinnegare e nemmeno di diminuire in alcun modo la validità ideale politica storica dell'irredentismo. A proposito dell'efficienza dell'amministrazione austriaca, l'illustre collega Bandruska ha scritto recentemente alcune belle pagine ad introduzione di un importante volume sulla storia amministrativa della monarchia dal 48 al 18. È un elogio in gran parte meritato e forse più nelle gerarchie burocratiche a basso e medio livello che non sempre nelle alte sfere ministeriali, dove, specie al tempo del famoso crack bancario del 73 e saltuariamente poi anche in seguito a speculazioni su lavori pubblici, civili e militari, sulle costruzioni ferroviarie, venne fuori anche nel marcio. Così come in quelle sfere, particolarmente dominava solitamente il favoritismo proveniente dagli ambienti di corte, anzi negli ultimi anni della duplice corte in concorrenza di Francesco Giuseppe e dell'arciduca ereditario Francesco Ferdinando. E così poteva verificarsi il caso che un primo caposezione della presidenza dei ministri, il dottor Rudolf Seebart, uomo molto dotato, il futuro governatore della Bodenkreditanstalt, fosse una vera potenza. Ed anche nei ranghi medi e bassi non tutto era perfezione. Basta leggere le memorie briose, che non sono quasi mai ricordate, di un goriziano fedelissimo suddito, impiegato di luogotenenza e per un po' anche di polizia, Alois Lassas, per vedere che anche lì talvolta regnava neghittosità, pedanteria, stupidità, insomma, per dirla con Victor Adler, schlamperai. Ma qui non si tratta di giudicare, ma di capire la situazione storica, traendola fuori dagli schemi duri a morire, fabbricati su un'Austria precostituzionale e riapparsi in tempo di guerra, quando lasciata mano libera ai militari, veramente furono commesse delle nefandezze. Ma pare sia fatale che il clima di guerra obnubili dappertutto il senso morale. Anche la liberale Inghilterra non esitò nel 1916 ad impiccare per alto tradimento il patriota irlandese Sir Roger Casement. Insomma, fra tanto polverone di teorie storiografiche, si tratta di tornare innanzitutto, umilmente, all'agrodetto dell'Altmeister Ranke, cercare di vedere le sangue trische canche. Le interessanti relazioni e discussioni che ho ascoltato, molto imparando, in questo convegno, danno la certezza che gli istituti che ci hanno qui convocati si muovono su questa linea. Grazie. Questo magnifico panorama che ci ha dato della storia austriaca dell'ultimo cinquantennio della sua vita. E posso aggiungere soltanto titolare di una cattedra di storia austriaca all'Università di Vienna, che nessuno di noi potrebbe mettere in dubbio alcuno dei giudizi, che veramente era così perfetto dal punto di vista, anche se si vuole, austriaco. Se un austriaco dovesse fare questa relazione, non potrebbe farla diversa, e io credo che proprio questa relazione concludente del professor Sestan ha mostrato quanto siano vicini i punti di vista riguardando la storia, appunto sotto la guida di insegnamenti del Altmeister anche di vedere wie es eigentlich gewesen ist, fra la storiografia italiana e quella tedesca. Abbiamo imparato moltissimo, devo confessare, anch'io ho imparato molto dalla sua magnifica relazione, e la ringrazio veramente di tutto cuore. Adesso facciamo un brevissimo intervallo per i signori fumatori, parte alla discussione Mozzarelli o Sestan, di venire qua che io scriva i nomi. Grazie. Accomodatevi, Mozzarelli, discussione, e per non, finché mi pruda molto di intervenire su tutte e due relazioni, vorrei solo dire con una parola, ricordare a proposito della divisa, che anche, come sa bene il professor Sestan, nell'esercito austro-ungarico tutti, dal tenente all'imperatore Francesco Giuseppe portavano normalmente lo stesso copricapo nero con nessuna distinzione, tutte le distinzioni erano soltanto limitate al colletto, tanto naturalmente poi i generali Roten Lampas nei pantaloni. No, e al professor Sestan ci siamo trovati d'accordo quando lui ha detto che il Partito Socialdemocratico era un partito riformista, è vero, e lo era di fatto, ma in teoria per mantenere l'unità del partito, cioè aveva una ortodossia marxista verbale e radicale, e questo era il Victor Adler che aveva il gioco per mantenere l'unità fra moderati e massimalisti, aveva usato questo linguaggio, diciamo, teorico, ma in pratica veramente, come lei ha detto, era in pieno, benché teoricamente ripudiava il riformismo, in pratica era riformista e revisionista anche. Dunque arriviamo alla discussione. Il primo, c'è solo uno iscritto alla discussione per Mozzarelli, che è il professor Raina. Prego di cominciare subito. Il professor Ara, professor Ara, venga qua. Zwar würde ich gerne wissen, ob er uns mitteilen kann, wie die finanzielle, soziale Lage der Beamten in Lombardo-Venetien war, ob sie besser oder schlechter gestellt waren, wie etwa die Impiegati non statali in Lombardo-Venetien. Und zweitens, wie sie im Verhältnis, im wirtschaftlichen Bereich zu ihren Kollegen im benachbarten Piemont dran waren. Und drittens noch, ob er auch Angaben machen kann, woher diese Beamten gekommen sind, ob es zum größten Teil Venezianer waren oder von welchen anderen Teilen der Monarchie. Posso forse rispondere subito? Le domande del professor Raina erano la situazione sociale e strato sociale e economica degli impiegati, secondo come erano pagati in confronto per esempio ai loro colleghi piemontesi, e terzo da dove, da quale regioni provenivano, da Lombardo-Veneto o e in quale porzione da altre parti della monarchia. Lei può rispondere subito. Il rapporto fra le retribuzioni degli impiegati statali e quelle degli altri lavoratori del terziario, così, è abbastanza difficile da stabilire, perché nessuno ha studiato, cioè ha preparato mai delle tabelle di questo tipo per il terziario. L'unico dato che riesco ad avere presente è quello che risulta dal lavoro di De Maddalena su Prezzi Mercedi a Milano, e che riguarda però soltanto i muratori, no? Quindi è un dato un po' dispari, ma un capomastro che avesse lavorato tutti i giorni dell'anno, quindi un fatto incredibile, avrebbe avuto un reddito a livello di un usciere all'incirca, no? O comunque non superiore, inferiore a quello di un alunno con adiuto, quindi 800 fiorini. Perciò, ovviamente, l'entrata nel pubblico impiego era una buona soluzione, come d'altra parte sembra dimostrare anche la pressione che si manifesta sull'amministrazione per l'ingresso, no? del maggior personale. Gli stessi problemi si pongono per un confronto col Piemonte, cioè io non ho visto dati di questo genere, e quindi purtroppo a questa domanda non posso rispondere. E infine, sulla provenienza dal Regno Lombardo-Veneto, la riguarda l'Austria, di fronte ad un insieme di imposte di consumo estremamente diverse tra di loro, diverse addirittura tra le singole regioni e tra le singole zone. Quindi esisteva una necessità di organizzazione e anche di omogeneizzazione tra queste imposte delle singole zone. Cioè l'introduzione del dazio di consumo porterà in pratica in Austria ordine in un sistema sino a quel momento estremamente complicato ed estremamente diverso. E va anche detto che di queste imposte che esistevano in precedenza, solo una parte limitata di denaro confluiva poi nelle casse dello Stato, e c'erano state già in precedenza resistenze contro i tentativi di far fluire questo denaro nelle casse dello Stato. Del 1821 è il primo piano per mettere ordine nel sistema delle tasse di consumo. Che gran parte delle tasse di consumo finora esistente ricevono gli stendel e i privati e sì, gli appaltatori, non appaltatori, gli stendel che sarebbero i ceti, i rappresentanti, gli stati, usava stendel. Non so come si fa. Gli stati, la parola stati in generale. Sì, sì, stati. Si usa la parola stati, ma dato che non esistono in Italia. Non esiste. Erano le categorie organizzate. No, erano lì. Erano le pouvoir intermédiaire. Erano i proprietari che sedevano alla dieta, che avevano esercitavano. E le città non sono. Questo rivela come è complesso, vero? Si muove tra dati e numeri. È una vecchia storia che è molto difficile tradurre la parola tedesca stände in inglese è parliaments, in Francia è les états, les états généraux, les états. No, c'è un altro, i Berufsstände è un'altra cosa delle Landstände. È diverso, sì. Evidentemente qui. Qui possiamo discutere sono molto. Diversi. Comunque procediamo, altrimenti qui dopo può essere soggetto di errore. Poi la traduzione viene aggiornata e corretta dal responsabile. Dunque, del 1821 è il primo piano per mettere ordine nel sistema delle tasse di consumo in Austria, ed è stato detto anche che in questa fase, prima nel 1821 e poi di nuovo nel 1830, il governo ha bisogno di soldi, di entrate per ragioni politico-militari in relazione con la necessità di intervento in Italia. Sì, sì, anche questo, ma penso soprattutto perché non so se lei ha parlato. Sì, cioè che in questo, l'imposta fondiaria, che era fino a quel momento la fonte maggiore di entrate dello Stato, e il suo rendimento sono praticamente in diminuzione, cioè attraverso dei dati che sono stati letti si dimostra come l'amministrazione fiscale aveva poco ormai da attendersi da un aumento delle entrate attraverso l'imposta fondiaria, e che quindi era necessario ricorrere ad altri tipi di imposizione, e quindi si preferisce tassare il consumo piuttosto che la produzione al momento dell'origine. Scusi, e anche si è visto che gli stati non sono più capaci di prendere più funzioni, che lo Stato moderno... Di assumere altre funzioni che nel Stato moderno erano divenute necessarie, per esempio le strade, eccetera, eccetera. Tutte le necessità date dalla commerciale che aveva anche le sue conseguenze, no? Sì. E quindi così nel 1829 il governo si decide di seguire il modello lombardo della tassazione generale sui consumi. E poi dunque lei ha ricordato delle posizioni anche teoriche contrarie alle imposte indirette che erano state espresse già ancora nella Repubblica Cisalpina in Francia, l'abolizione da parte dell'Assemblea Costituente francese delle imposte indirette, la reintroduzione da parte di Napoleone nel 1804. Aveva ricordato come poi nel periodo dal 1806 al 1809 c'era stato nel Regno Italico una enorme crescita delle entrate attraverso le imposte indirette. Sì, anche nel Regno Italico, ma i dati che ho dato sono per la Francia, imposte che toccano soprattutto le città. Il sistema quindi viene considerato da parte degli austriaci come un sistema positivo sotto il punto di vista finanziario, e questa è la ragione che spiega il mantenimento dopo il 14 del Lombardo Veneto e la introduzione successivamente in Francia. Dunque, poi lei ha fatto anche un paragone tra il peso della tassazione in Francia e nel Regno Italico, e ha ricordato come poi gli austriaci, quando mantengono il sistema del Lombardo Veneto, riducono alcune aliquote della tassazione. Sì, ma non so che se Leo dirà ancora, ma cose troppo puntuali. Sì. No, perché dice no. Che gli austriaci non solo prendevano il sistema del Regno Italico a causa dal punto di vista finanziario, ma anche gli piaceva come sistema, perché c'era una divisione fra comuni aperti e comuni chiusi, e questo dava anche, come vedremo ancora più vicino a questo sistema, un vantaggio ai possidenti, e anche non gli oggetti industriali non furono tassati. E anche questo era qualcosa che a nostra piaceva, no? Sì, difatti, prima ancora aveva ricordato che questo sistema garantiva delle rendite maggiori, lei aveva detto, proprio senza vittime politiche. Sì. E questo è uno degli aspetti per cui questo tipo di tassazione viene scelta. Le aziende industriali, in entrata o in uscita? L'esportazione del prodotto manufatto o l'ingresso? È l'ingresso delle città. Questo non è in dogana, no? La dogana. E ci sono le città, nelle città aperte entravano. No, sì, senza pagare, no? L'ingresso. Sì, sì. Sempre l'ingresso. E dunque, poi, non so, ci sono portati tutti nel frattempo, il sistema adottato nel Regno Italico e nel Lombardo Veneto è più frequente di quanto non sia in Austria il sistema dell'appalto, dell'imposta. E sia nel Lombardo Veneto che in Austria c'è una diffusa scontentezza per il sistema dell'appalto e per i rapporti con le singole figure degli appaltatori. E da ricordato che c'è una versione molto importante nei confronti del sistema dell'appalto, cioè quella di Colbrat, ha ricordato poi che oltre all'appalto c'era anche dei subappalti, cioè che il sistema a sua volta si estendeva. Ha detto che Colbrat considera questo sistema come una un allontanamento anche del popolo rispetto al potere statale più lontano, ma ha detto anche, mi sembra che a suo avviso la causa principale sia invece che la versione di Colbrat ha origine soprattutto da un atteggiamento anticapitalistico. Sì, è molto scendente, no? Feudale, Stendish delle volte si può tradurre con feudale, dipende. E d'altra parte, dopo lei ha sottolineato quelli che invece erano gli elementi che militavano a favore del mantenimento del sistema della pace e dell'appartatore, cioè si trattava bene o male di uno, di un lead, di un legame che esisteva tra lo Stato e il popolo. Attirava, e questo mi sembra un punto molto importante, su di sé la pressione, in un certo senso la allontanava dagli organi pubblici. E poi ha ricordato come mancasse un apparato idoneo a far sì che il sistema, un apparato di sorveglianza, un apparato di controllo. Poi dunque ha ricordato di nuovo come, e questo l'avevamo già detto qualche volta, come nel 1829 questa imposta generale sui consumi sostituisce varie imposte che in parte, è già stato detto, non fluivano nelle casse dello Stato. E a questo punto ha preso in considerazione il problema di un raffronto fra l'Austria e il Lombardo Veneto, e anzitutto ha preso in considerazione un giudizio di San Donà, che poi forse potrà anche essere discusso, e in pratica più che il giudizio di San Donà è quello di una tassazione molto più forte per le province italiane che non per l'Austria. E lei non discute fino a un certo punto questo, e discute invece la legittimità del giudizio di San Donà, dicendo che paragona due termini che sono... No, lui paragona gli introiti degli anni 19 e 20, ma in questi anni non esisteva ancora il sistema del dazio di consumo di nostro. Perché solo piccola parte era sì. Quindi era un giudizio proprio solo merito di legittimità della valutazione di questo genere. E invece lei fornisce dei dati del 1843. Sì. Anche a questo punto rimane il paragone difficile, perché diverso è il numero delle voci tassate, diverso è il numero dei generi compresi in una sola voce, lei ha ricordato come qualche genere compare per esempio sotto una sola voce, adesso non mi ricordo il vino posto, e altri invece in tariffe lombarde o viceversa compaiono qualche volta in più voce, qualche volta in una sola voce. Dunque qui ci sarebbe da dire qualche cosa, e questo mi pare stato un punto importante nella relazione, come il Lombardo Veneto sia caratterizzato da una presenza in proporzione di un maggior numero di grandi città rispetto all'Austria. Tra le quattro più popolate città dell'Austria in questo momento, due, la seconda e la quarta, se non sbaglio, Milano e Venezia, sono italiane, e ha ricordato come poi, dopo fornire una statistica ulteriore del numero di città che superavano in quel momento i 100.000 abitanti, e ce n'era un numero abbastanza considerevole. Questo ha importanza nel senso che ci troviamo di fronte a tipi di imposte che colpiscono più la città di quanto non colpiscono la campagna. Dunque ha ricordato che le differenze di tassazione tra città e campagna nel Lombardo Veneto sono minori di quanto non sia invece in Austria, e questo ha come conseguenza anche la presenza di un contrabbando più forte in Austria, perché vale più la pena, perché dà più reddito. E ricorda come in Austria la campagna venga sotto questo profilo tutelata per ragioni di politica generale. Dunque, poi sono stati dati tantissimi dati sulla carne, sul bestiame macellato, sulle pecore, sulla capra, sul manzo, sulla carne di manzo, che non mi sento in questo momento di ripetere. Dunque c'è poi un punto sul quale credo forse indirettamente la signora Sauer ha richiamato l'attenzione del professor Berengo facendogli una domanda, cioè ci si trova di fronte ad una tassazione molto più forte sui consumi per il Veneto che invece per la Lombardia, e si pensa a cominciare dal 1838 di modificare le cose, non certo diminuendo la tassazione in Veneto, ma alzandola invece in Lombardia, cioè raggiungendo l'eguaglianza a livello più alto. E questo viene studiato praticamente fino alla vigilia del 1848, ma le autorità politiche pensano, per ragioni anche in questo caso politica, di non poter alzare la tassazione in Lombardia perché questo avrebbe ulteriormente fomentato l'agitazione della popolazione, cioè sono ragioni di ordine pubblico. Ecco, e la domanda che la relatrice si poneva era quello del perché di questa differenza in origine di tassazione tra il Veneto e la Lombardia. Dunque, poi sono stati dati dei dati sia per il Lombardo-Veneto che per l'Austria sulle aliquote, sui generi colpiti dalla tassazione, le differenze nelle aliquote, le differenze tra i generi colpiti dalla tassazione. Ha ricordato come, con una considerazione generale, Lombardo-Veneto, io l'avevo già detto in Spagna, Lombardo-Veneto era strutturalmente più colpito dall'imposta sui consumi di quanto non fosse l'Austria, proprio per la presenza di un maggiore numero di centri urbani. E poi è stato sottolineato come è difficile fornire dei dati precisi sui consumi nel Lombardo-Veneto perché questi dati mancano nelle statistiche ufficiali esterne. Sono stati invece dati dei dati di archivio tratti dalla Camera Archivi sui consumi. No. Si trovano dati? Avevo il problema di vedere quali sono i generi che rendono di più nel Lombardo-Veneto, quali sono i generi che rendono di più nell'Austria. Si vede come nel Lombardo-Veneto i generi che rendono di più sono il grano, la farina, il pane. In Austria e in questo, scusate, no, in Lombardia. Mentre nel Veneto il genere che rende di più è il vino. In Austria ci si trova è stato ricordato che, come nel Lombardo-Veneto, fossero molto ridotti i consumi di carne perché era molto tassata. Rimane un punto interrogativo: forse si consuma di più carne di pollo che non viene invece tassata, e potrebbe essere un alimento sostitutivo della carne. E in Austria e soprattutto a Vienna ci si trova di fronte ad un consumo proporzionalmente più rilevante di carne. Le entrate maggiori che si verificano nel Lombardo-Veneto rispetto all'Austria sono solo in pochi casi, e mi pare stato citato l'esempio solo soprattutto del vino, da rapportare a consumi maggiori, quindi in genere sono legati ad una tassazione più alta. E poi c'è una conclusione: il dazio di consumo ha raggiunto ottimi risultati tecnici nel Regno d'Italia e successivamente in Austria, sia pure con le aliquote minori nel Lombardo-Veneto e nell'Austria. Tecnicamente è un'operazione riuscita, è un'operazione però che è accolta non molto di buon animo dalla popolazione, e che inoltre, con tutto il sistema dei controlli adesso connesso, rende più difficile in ceppa lo sviluppo della vita economica. Ci sono vari casi di agitazione tra la popolazione, soprattutto per il grave carico sulla città. È stato poi ricordato, più o meno in conclusione, come le tariffe siano uguali per beni di buona qualità e di cattiva qualità, per buon vino e cattivo vino, e così via. E quindi si tratta di un'imposta, vedo che questo ci riconduce un po' a quanto aveva già detto anche in italiano la relatrice, è un'imposta che lascia abbastanza tranquilli beati possidentes e che tocca invece in maniera particolare i ceti più poveri della popolazione. Ho anche la traduzione, e mi pare che questa fase di storia economica con i dati esigeva proprio un testo più scritto per seguire. Comunque noi attenderemo la valutazione e i confronti con quello che noi sappiamo quando sarà pubblicata la relazione. Per quello che riguarda la discussione, credo che possiamo continuare. Oppure siete stanchi, vero? No, chi è che ha a chiedere la parola? Io. Di accostarsi qui, non spostare, è vero, la corposità e la densità della sua relazione, con anche la capacità di tradurla avere in prospettive suggestive. Concludendo, tu dicevi che la ipersensibilità, diciamo, dell'imperatore, come vedo di certi ceti responsabili, derivava dal fatto che l'irredentismo veniva a ferire, è vero, certi principi fondamentali che erano essenziali per la dinastia, per la monarchia. Ora vorrei sottolineare una cosa che forse tu non hai sottolineato perché era ovvia. Questi principi fondamentali non erano solo la nazionalità. L'irredentismo era doppiamente sovversivo dal punto di vista nazionale e dal punto di vista democratico, cioè l'identità tra l'idea, il principio della sovranità nazionale e il principio della sovranità popolare. È vero, che coincidevano fin dove? Ecco, questo è un tema che potrebbe essere interessante. Questo legame di principio, è vero, dall'illuminismo e poi legame tra principio di nazionalità, principio di sovranità nazionale, principio di sovranità popolare. Fin dove l'irredentismo nei suoi ranghi rappresentava l'offensiva democratica? Che io sappia c'è una ricchissima letteratura sull'irredentismo, ma un studio critico d'insieme, confesso la mia ignoranza, tu ne conosci. Sulla democraticità? Sull'irredentismo. No, c'è una vastissima letteratura, ma uno studio critico che lo studi nelle sue componenti, perché era, in certo senso, e questo spiega anche, è vero, la reazione, la sensibilità di certe reazioni, era un movimento sovversivo, era un movimento di sinistra. Gli irredentisti, anche da noi, appartenevano non ai partiti conservatori, ma ai partiti democratici. Insomma, loro, e qui l'immagine convenzionale della monarchia austriaca come incarnazione della autorità, anche in fondo le istituzioni, nella polemica interventista, la presenza di istituzioni più o meno parlamentari, costituzionali, eccetera, veniva ignorata e scavalcata. Io ricordo, sono vecchio, le polemiche per l'interventismo. Si voleva colpire nell'interventismo alcuni, è vero, quella complessa cosa che è l'interventismo italiano, gli irredentisti non solo calcavano la mano sul fattore nazionale, ma anche sul fattore democratico, la guerra delle democrazie occidentali contro gli imperi centrali, cioè questo duplice aspetto, l'aspetto nazionale e l'aspetto ideologico, che vengono a coincidere, e sarebbe interessante appunto studiare le componenti politiche dell'irredentismo dal punto di vista ideologico, perché è un movimento di rivendicazione nazionale, ma che si muove con determinate premesse ideologiche, a mio vedere. E in ogni modo un quesito che pongo, è vero, più che un'affermazione. Che voglio presentare. Grazie. Perfetto. Io non rispondo. Il suo nome. Chiamo giusto giusti. Giusti la... del giardino. Beh, se vuole anche. La questione posta così acutamente dal professor Vandus sull'irredentismo, secondo me mi porta, ci porta a vedere, a parte questa parola, nel fondo i rapporti fra il mondo austriaco e il mondo italiano. Fino alla rivoluzione francese, fino a Napoleone, non c'è dubbio che l'Austria era il paese straniero più popolare in Italia, più ammirato in Italia, soprattutto per due ragioni, o per varie, ma tra le prime tre, il regime granducale illuminista a Toscana, il regime di Firmian a Milano, cioè due zone estremamente importanti dell'Italia, attraverso l'Austria si erano messe, diciamo, con l'avanguardia intellettuale europea. In più, nel Veneto di terraferma, erano delle antiche simpatie per l'Austria in funzione antiveneziana, perché noi diciamo sempre la Repubblica Veneta, ma io sono un veneto di terraferma e quindi ho una sensibilità in materia e credo che diciamo certi simpatie della terraferma veneta fino dal tempo di Massimiliano I verso l'Austria erano in funzione antiveneziana. La situazione si rovescia dopo l'epopea napoleonica. Perché? Perché Napoleone e gli eserciti francesi avevano diffuso in Italia nei concetti, diciamo, che allora si riassumevano nelle parole libertà dallo straniero e libertà in generale, indipendenza se volete, e libertà. E quindi, siccome l'Austria a Vienna era diventata il paese più pesantemente presente in Italia, erano mutate gli umori dell'opinione pubblica italiana. Ne è prova il fatto che molti della generazione nata nel Settecento, cioè gente che era adulta o anziana nel 15, aveva grandi simpatie per l'Austria. La generazione nata dopo, nata durante il periodo napoleonico, cioè proprio da padre a figlio, sono diventati anti-austriaci. Perché? Lì, e il professor Vandus mi dovrebbe dire se è vero quello che io ho sentito dire molte volte, ma che non ho mai letto sul documento, che vi sarebbe stato prima del congresso di Vienna un progetto di Metternich per una certa politica austro-italiana che avrebbe dovuto impedire che si unissero i due paesi più bizzosi d'Europa, cioè la Russia e la Francia. Ma che questa politica immaginata da Metternich sul piano europeo, sul piano generale, che non aveva preso delle forme concrete, era un orientamento che l'Austria aveva dovuto fare, una politica di simpatia, di amicizia, verso quella che lui giustamente definiva allora un'espressione geografica, e di più non era, e quindi aveva acceso anche delle simpatie degli italiani di origine illuministica, e cito il primo prigioniero italiano dello Spielberg, Compalonieri. Ora, questa gente, questo mondo che aveva sperato nell'Austria, si è trovato deluso il giorno che l'Italia è diventato per gli Asburgo la terra dove sistemare le figlie o il fratello. Cioè, dicono che l'imperatore abbia detto a Metternich: ma io ho un fratello granduca in Toscana, una sorella regina Napoli, una sorella granduchessa di Parma, un cugino a Modena, un cugino a Torino, e lei mi vuol creare tutte queste grane in famiglia, ma che cos'è questo? Cioè, sarebbe stata più un'opposizione dinastica asburgica che una opposizione proprio della cancelleria di Vienna. Ma secondo me è lì che è nato, in quel periodo sono nate le due differenze, e cioè quando di fronte a questa politica che ha trattato l'Italia così come terra di conquista, come espressione geografica, allora gli italiani si sono messi contro l'Austria, cioè l'intelligenza italiana, i moti del 20, del 21, e su quello poi hanno giocato tutti, naturalmente hanno giocato anche delle surenchère di destra per impedire degli sviluppi di sinistra. Dopo il 48, dopo le guerre, dopo il 59, eccetera, quando poi è incominciato a fiorare l'indipendentismo, l'irredentismo, quello ha fatto molto comodo alla destra, perché coloro che volevano la rivincita erano sempre i Savoia e l'esercito e la marina. Bisogna vendicare, disse Custoza, questo era lo slogan delle forze armate italiane e della monarchia italiana. La monarchia, quando però capiva che non poteva essere una politica militare o dinastica, perché l'Italia si muoveva in un certo senso politicamente, l'irredentismo, che come giustamente diceva il professor Valsecchi, è nato di sinistra, ma è stato subito sfruttato dalla destra, perché alla destra faceva comodo che ci fosse un veicolo insospettato e insospettabile che agitava le acque a sinistra. Oh, e poi per concludere, perché non voglio fare un intervento semplicemente, per concludere ne abbiamo la controprova nel 14-15, l'interventismo italiano. Come è stato? Di destra e di sinistra. L'interventismo di destra è stato l'interventismo della corte, dell'esercito, della marina e di qualche politico sonnino, per fare un nome, o Salandra, ma così, che era l'estrema destra del Parlamento italiano. Il mondo di sinistra, diciamo il mondo, i ceti intellettuali così, di classe media, glieli ha portati il nazionalismo, il movimento di Corradini, di Fidentori. Ma poi l'elemento che forse ha deciso l'intervento italiano è stato l'irredentismo di sinistra, quello di Corridori e di Mussolini. Quelli che hanno, a parte che questo movimento ha trovato il supremo celebrante in un poeta, in D'Annunzio, ma a parte questo, sono certamente stata la confluenza di questa idea, di questo movimento di sinistra, cioè i sindacalisti, i socialisti dissidenti, i nazionalisti che loro non si qualificavano, erano destra in politica estera ma non in politica sociale, non è vero. Ora, questi hanno portato a questa confluenza che è un po' la sintesi di tutto quello che è successo dal principio dell'Ottocento al principio del Novecento. L'irredentismo è stato anche incoraggiato sotto banco dalla destra, con qualche gesto contrario, quando hanno una volta hanno messo a riposo il colonnello Vernezzo, c'è una poesia di Pascoli molto bella, a riposo, perché aveva fatto un discorso irredentista utile quando comandava il Carabinieri dell'Aquila. Ora, ha sempre servito avere la piazza che faceva l'irredentista, quindi la componente irredentista italiana, secondo me, è partita da destra, si è lentamente sviluppata a sinistra, la destra ha ripreso di nuovo la direzione del movimento, ma volutamente o non volutamente, l'elemento poi decisivo nel 14-15 è stata la sinistra. Io avrei finito. Grazie. Rainer. Ich habe nur eine kleine Bemerkung zu machen zu dem Ausspruch angeblich von Franz Josef, dass dieses Österreich eine einmalige Anomalie wäre in der Welt von damals. Nun, wenn man nach Italien schaut und nach Frankreich, stimmt das schon. Aber das Osmanische Reich dahinter war ja in einem ähnlichen Zustand. Von Libyen bis Mazedonien noch reichend mit einem Dutzend Völkerschaften drinnen. Und nicht unähnlich war ja auch das Russische Reich. Denn außer den Russen, die untergeteilt in Groß-, Klein- und Weißrussen, gab es ja fast die ganzen Polen noch in Russland. Finnen, Schweden, Esten, Letten, Litauen, Deutsche und was dann weiter gegen Asien, zu ganz zu schweigen von den Tataren bis Mongolen. Also da hat er nur nach einer Seite gesehen. Und da steht nicht. Und ich glaube ja auch nicht ganz, dass dieses Bewusstsein der Anomalie so eine wesentliche Rolle gespielt hat im Werden dieser Hypersensibilität, die ja auch Professor Balsecki erwähnt hat. Sondern es ist wohl ein einmaliges Phänomen, wie dieses überreife Österreich oder Österreich-Ungarn eine eigene geistige Mentalität entwickelt, die vielleicht in der Literatur am ehesten erfasst wird oder zum Ausdruck gebracht wird in diesem bekannten nun Mito Aspurgico oder wie wir es nennen wollen. Also das wollte ich bedenken. Dann eine kleine konkretere Sache wegen der Abtretung des Trentino Ende 14. Nicht da meinte Professor Wandruschka, dass doch das wesentliche Hindernis war, dass die Aversion Franz Josef gegen Italien so stark war, weil in Italien das Prinzip des plurinationalen Staates in Frage gestellt wurde. Nun, ich bin auch der Meinung, wie er es gebracht hat, dass das ein wesentlicher Faktor ist, dass er gegen Italien eine Aversion hatte. Aber daneben gab es natürlich auch viel einfacher noch, nicht? Die militärische Niederlage, die Emporkömmlinge, die es dort gegeben hat. Und dann die gewisse Schicht in Italien immer lauter wurde, munter, die Nachfolger Garibaldis, wenn wir sie nennen wollen, die linke intellektuelle Seite, die ja so gegen seine Lebensprinzipien war, wie man sie extremer ja kaum vorstellen konnte. Wäre das neue Italien nur in Piemont und den Geist der piemontesischen Armee zum Ausdruck gekommen, wäre es ihm sicher viel sympathischer und lieber gewesen. Aber nach außen ist ja viel mehr in Erscheinung getreten, dieser intellektuelle Liberalismus, vermischt dann mit antikirchlichen Sprüchen und Freimaurerei, all das, was ihm ja wirklich persönlichst auch zuwider war. Also ich so glaube ich nicht nur, dass es das Prinzip war, an den er sich gestoßen hat, ich glaube aber überhaupt eine einfachere Natur, bei der diese handfesteren Argumente mehr gewogen haben. Und vielleicht kommt er noch dazu, bei der Abtretung gerade, ich möchte sagen, wir können den juristischen Begriff hereinnehmen, des guten Hausvaters. Der gute Hausvater kann nichts hergeben von dem, was er übernommen hat. Das ist erst eine neuere Ansicht von denen, die keine Bindung haben zu einem gewissen ererbten Patrimonium. Da kann man abstoßen, da kann man eintauschen, da kann man vermehren. Der gute Hausvater muss behalten, was er hat. Eine ähnliche Stellung hat ja angeblich auch Pio Nono eingenommen beim Kirchenstaat, nicht? Er soll ja auch gar nicht dagegen gewesen sein, nicht das auch. Aber er konnte ja gar nicht da etwas hergeben, weil sie ja gar eigentlich nach seiner auch gar nicht ihm gehörte. Und das ist beim guten Hausvater auch, ist ein Familienvermögen oder Eigentum, das ich nicht einfach hergeben kann. Das war das. Ringrazio i tre intervenuti, specialmente l'amico maestro Valsecchi. Naturalmente qui è un discorso un po' complicato, perché tu hai detto, cioè facciamo così, io ho cercato di spiegare le ragioni della sensibilità verso l'irredentismo. Ora, per l'Austria, questo fatto che l'irredentismo fosse di sinistra o non di sinistra, a parte quello che ha detto Reinhard di certe antipatie dall'imperatore, non ha giocato tanto. Dobbiamo sempre pensare, e questo è tipico, che da parte italiana viene sempre dimenticato, che quell'Austria contro la quale si scagliava l'irredentismo era già l'Austria costituzionale, che era l'Austria dopo il 6-7 del suffragio universale, di una società. Vengo subito a questo. Era l'Austria di quello che Luega chiamava scherzosamente, ma molto colpendo il segno della KK, privilegierten Sozialdemokratie, cioè di Viktor Adler, eccetera. Nella coscienza dei funzionari dello Stato che il redentismo fosse di sinistra o di destra non aveva, secondo me, alcuna importanza. Tutto diverso è il discorso se lo guardiamo dalla parte del irredentismo italiano. L'irredentismo è riuscito a dare nella pubblica opinione italiana l'immagine della Austria dell'ultimo periodo di Francesco e Giuseppe sulla falsa riga dell'Austria metternichiana, cioè un'Austria bigotta, autoritaria, con un esercito di preti continuamente in ginocchio e di funzionari continuamente, soldati continuamente con la baionetta, eccetera. Il che era una immagine falsa, convenzionale e falsa. Naturalmente questa Austria dalla sua struttura si distingueva dallo Stato moderno nazionale, in quanto l'imperatore, l'esercito, il clero e la burocrazia erano le sue colonne, ma intanto c'è la collaborazione della burocrazia, per esempio col socialismo, con idee moderne, c'è il movimento cristiano sociale, ci sono tante cose. Questa immagine dell'Austria soltanto reazionaria o autoritaria non corrisponde più alla realtà, però è un successo dell'irredentismo di dipingere l'Austria, specialmente poi dell'interventismo del 15, di dipingere l'Austria anche come il paese più reazionario. Nello stesso tempo in cui i socialisti austriaci dicevano: noi dobbiamo combattere perché è la Russia zarista che ci minaccia, noi difendiamo la libertà contro la Russia, nello stesso tempo in cui poi l'Italia diventa alleata della Russia. Poi naturalmente dopo la rivoluzione russa e l'entrata in guerra della Stati Uniti, tutto cambia di nuovo. Allora veramente l'Austria è un residuo, diciamo, sembra un residuo autoritario medievale, eccetera, in una Europa o in un mondo che sta diventare democratico. Così io credo che da quel punto di vista che ho trattato io, la ideologia non ha tanta importanza. Però do ragione qui subito professor Reiner, che ha per Francesco Giuseppe personalmente tutto questo mondo degli avvocati che avevano tanta importanza nella politica italiana, come anche degli avvocati austriaci liberali, perché anche l'Austria aveva avuto il suo liberalismo che era già al tramonto, ma tramonto perché è troppo nazionalistico, eccetera, e la corona cercava anzi il sostegno dei ceti bassi, più umili, dei cristiano sociali e dei socialdemocratici, per quello che si era introdotto il suffragio universale. Allora, questo credo. E lo stesso, in fondo, questa è anche la risposta a quello che ha detto l'ambasciatore Giusti del Giardino, che è vero che dopo Napoleone c'è la grande scissione. L'Austria dopo Napoleone diventa per la sinistra europea, si può dire la Cina europea, il gendarme, specialmente per gli italiani. Allora questo cliché, questa idea è da un lato, dall'altro poi, quello sentiremo domani, quello per nominare il libro di Claudio Magris, nasce proprio in questo momento che l'Austria non è più all'avanguardia come nel periodo di Maria Teresa e di Giuseppe, ma che è l'Austria di Metternich, nasce poi quel mito asburgico del buon amministratore, eccetera. È un processo dialettico molto complicato, che è diverso se se lo guarda dall'Italia o dall'Austria, ma io vorrei veramente sottolineare questo fatto che l'Austria dell'ultimo periodo di Francesco Giuseppe ha naturalmente certi problemi sociali, eccetera, ma non è l'Austria autoritaria, soltanto poliziesca. E dall'altra parte, questo è ancora per quello che dice il collega Reina, è vero, naturalmente Russia e Turchia, ma la Turchia era l'altro uomo malato, c'era la rivoluzione dei giovani turchi in quel periodo. L'Austria perde, cioè i ceti, l'Austria non si può mai dire, bisogna parlare di certi ceti, certi gruppi, eccetera, ma i ceti dirigenti dell'Austria sono pervasi di una profonda di un profondo scetticismo e sentimento, anzi anche di inferiorità, e io lo daterei anzitutto dagli anni 90. C'è il fatto che la questione, già rammentato oggi dal professor Cervani, che il governo di una parte del grande impero, cioè il governo cisleitano, cade sulla questione delle classi parallele del ginnasio di Cilli. Subito dopo vengono queste incredibili scene al Parlamento nella crisi di Badeni, dove poi i deputati, lei dice che Francesco Giuseppe aveva una avversione contro quel mondo parlamentare italiano, ma il mondo parlamentare austriaco in quel momento che si buttavano l'inchiostro in faccia che un deputato perfino tirava fuori il coltello e che i socialdemocratici poi prendevano la presidenza d'assalto la presidenza e si buttavano tutte le cose verso il presidente, insomma scene che poi i poliziotti dovevano tirar fuori i deputati che si difendevano. C'era Mark Twain, che bene dall'America era abituato a certe scene anche al congresso, ma era spaventato da quello che è successo in quel momento, e Francesco Giuseppe poi è così spaventato che lascia cadere il conte Badeni. Allora questo è stato un trauma terribile anche per la classe dirigente austriaca, ed è una delle ragioni per cui loro, questa classe dirigente, poi nel luglio del 14 dice: se noi ci lasciamo adesso ammazzare il nostro erede al trono senza reagire con una guerra, siamo destinati, siamo finiti, diventiamo il trastullo di tutta l'opinione pubblica europea. Qui credo che c'è veramente questo sentimento quasi di disperazione, che si trova anche nella letteratura. Ringraziamo nuovamente la bellissima risposta e il do la parola alla signorina Saul. No, perché adesso gli interventi. Ah, ciao. Die Gemeinschaft aus Utzenschwein, das marxistische Lumpenproletariat verwiesen. Und es gibt doch einen Utzenschweiler, der eine sehr markante. Si superata la grande fatica di seguire le cifre che proprio senza pietà, on erras, la relatrice ha continuato a dare con unica misura. Ho tratto da questa relazione una straordinaria emozione, insomma. Siamo veramente in presenza, a mio parere, di uno dei contenuti più importanti, proprio capitali, a livello di due o tre lavori più decisivi che siano stati fatti su Lombardo Veneto. Io adesso ho degli appunti disordinati perché avrei una tale quantità di richieste di chiarimento e in parte anche di obiezioni da muovere alla signora Sandro, che starò ovvero nei termini, poi magari privatamente, questa immensa ricerca che deve avere alla sua base degli anni di lavoro, nonostante la giovane età della relatrice che ha pratica di queste ricerche. Ecco, poi dopo magari, venendo dunque allo specifico, siamo dunque d'accordo, mi pare, che questa imposizione è un'imposizione urbana. È un'imposizione, cioè, che colpisce i consumatori delle città murate, perché viene estesa anche ad alcuni centri non murati, dove però risulta inesigibile, no? Si riesce a tassare il vino, si riesce a tassare la poca carne macellata che viene venduta dai macellai, dai beccai, nei centri non murati, ma in effetti non funziona. Quindi questa imposta di consumo è un'imposta urbana. Ora, di questa imposta urbana si era certamente parlato negli anni napoleonici, discutendo su quelli che erano i tre poli, no? Del gettito, delle del gettito fiscale, l'imposta prediale, l'imposta di consumo e l'imposta personale, che era l'integrazione rurale dell'imposta di consumo. Siccome in campagna non si riusciva a esigere efficacemente l'imposta di consumo, c'era la personale, storia, che appunto lei ricorda col nome di macchina, no? È la stessa cosa, la macchina viene commutata nella personale. È la stessa cosa, insomma, viene, è un nome mutato, in età teresiana si chiama macchina, ma è assolutamente la personalità storica. Quella macchina non si riusciva mai ad esigere sul mulino, no? Come da 500 in avanti il sale è una composizione. Ecco, su questi tre poli però è stato solo per esigenze di esazione che il governo napoleonico si è trovato in condizione di premere con forza su questo tasto. È stato per esigenze di guerra, ma lo ha continuamente percepito come una sconfitta. Cioè, picchio non solo nell'opera sull'amministrazione finanziaria, cui lei si riferisce, ma nel suo carteggio companizio. Questi due esuli che in Inghilterra si scambiano opinioni sul passato finanziario del regno. E c'è ed edita nella corrispondenza di Picchio, bellissima lettera, a mio parere più importante ancora dell'opera sull'amministrazione finanziaria, vantando i meriti della passata gestione napoleonica, dice che ora la scelta austriaca, quale fu? All'interno del governo austriaco, ai vertici del potere finanziario, restavano forze che avevano avuto peso decisivo nel periodo napoleonico. Prima era morto, però c'era Mengotti. Chi ha ispirato la politica finanziaria austriaca è stato il direttore generale del censo, il conte Mengotti. E il conte Mengotti diventa vicepresidente di governo, vero? E esce sostanzialmente sconfitto nelle sue proposte finanziarie. Perché Mengotti cosa voleva? Voleva soprattutto la tassazione. No? In primo luogo, differenziando la montagna dalla pianura, ritorgive che le magre montagne da cui lui proveniva, no? I nostri monti del Trevisano, del Trentino, del Bellunese e poi del Varesopo, lui li voleva esibire. In secondo luogo, lui asprezza e durezza, negli anni seguenti, sarebbe più indiana, no? Fu una scelta di compromesso. Cioè, non si riuscì a ottenere dall'imposta prediale quel gettito preminente che l'ala napoleonica, dico Mingotti con un schermo, tutte le imposizioni. La prima cosa però che fa l'Austria entrando nel Veneto cos'è? Nel Lombardo Veneto nel 15, accettare la richiesta della possidenza aumenta l'imposta urbana, l'imposta di consumo diminuisce l'imposta prediale, a richiesta delle famigerate come le elezioni. Le congregazioni, i rappresentanti della possidenza, cosa vuole? Il contrario di quello che vogliono gli uffici censuari, i Mengotti, i napoleonici. Noi siamo ora in possesso di una serie di elementi che direi erano insospettabili. Per esempio, non avrei mai creduto che nel Veneto, quasi la metà del gettito, il 48,9% del 1844, derivasse da appalti. Ma vorrei chiedere solo delle imposte dirette. Lei si riferisce solo all'imposta di consumo, certo, non è il gettito globale. No, solo e anche quando lei parla del 60% del gravame fiscale complessivo attribuito alla popolazione urbana, cioè al 13,55%, lei si riferisce solo all'imposta di consumo? Sì. Quindi andrebbe stabilito il rapporto tra imposte di consumo e imposte prediali. Le imposte prediali sono quasi la metà, nel mio ricordo, 50%. Ma in questo testo ma dico nell'incidenza complessiva dell'imposta, sì. Il peso dell'imposta di consumo è relativo. Sì, ma ha cresciuto tanto, no? Era la metà della prediale, quasi, sì. No? Ma ha cresciuto quel tempo. Solo adesso non conosco, adesso non sì, cresce molto di più della prediale. Sì. Cresce molto di più della prima, e questa è la sconfitta della scelta che Mengotti aveva voluto. Perché c'era in fondo, e questo io vorrei dire, c'era nell'Austria un notevole ruralismo. Cioè, l'Austria percepiva il dato che la signora ha messo giustamente in piena luce, che qui si sono trovati a inglobare un paese molto più urbanizzato di quello da cui provenivano. Per esempio, hanno accettato di mettere più licei in Lombardia e in Veneto di quanti non ce ne fossero in Austria. Perché hanno detto che in questo paese non li possiamo cavare. Sono centri culturali, no? La grande intelligenza della politica culturale, metternichiana, dello Juspe, dei componenti della Repubblica Commissione, eccetera. La signora Giglio. Sì, mi riferisco alle ricerche appunto della dottoressa Giglio, che stanno per essere ente. Insomma, la Repubblica Commissione si accorge che non può sopprimere. Ecco. È molto più urbanizzato, però c'è il tentativo di non inasprire eccessivamente l'imposta sui contadini proprio perché l'Austria cerca di non giungere a un'esperienza di tipo galiziano, no? A una sollevazione quale sarà quella del 40 struttura sociale delle campagne. Questo rende appunto ancora più importante questo grosso spaccato. Gewesen ist, eine große Rolle gespielt hat. Ich möchte noch hinzufügen, dass man in Österreich an einer Verpachtung von Wien zum Beispiel überhaupt nicht interessiert gewesen ist. Es gibt einen Vorschlag einer Versicherung im Jahre 1867, Wien die Verpachtung von Wien zu übernehmen. Und das wurde also von der Regierung abgelehnt. Wahrscheinlich deshalb, weil man es doch als zu riskant empfunden hat. Denn man darf ja eines nicht vergessen, und hiermit möchte ich eine Frage von Professor Reiner vorwegnehmen, dass der Gewinn, der Profit der Pächter auf Kosten der Konsumenten ausgegangen ist. Für den Staat war selbstverständlich das Pachtsystem billiger, weil er hat damit nichts zu tun gehabt. Aber für den Konsumenten selbstverständlich ist das System teurer gewesen. Professor Njanschi, was Sie also gesagt haben über die Steuerpächter in Frankreich, dem ist also durchaus zuzustimmen. Es ist ja bekannt, wie verhasst die Steuerpächter gewesen sind. Und Aktionen der Bevölkerung gegen sie, vor allem gegen die Steuereintreiber, sind also sehr bekannt und auch untersucht worden. Der Professor Benischoli, diese Tabellen würden mich interessieren, die Sie erwähnt haben. Interesserebbero queste tabelle sulle quali ha parlato. Le mando una fotografia. Sì, è interessantissimo. Sì. Il professore Berengo, che sa molto di più di me, naturalmente ha fatto delle avvertenze culinarie, gli sono molto grata per tutte queste contribuzioni, soprattutto che cosa concerne questa constatazione sul compromesso che l'Austria faceva in queste date di consumo. Voglio aggiungere che 29 in Austria si è cancellato la tassa personale e anche la tassa Erwerbsteuer, la Klassensteuer, la tassa delle Klasse. Klassensteuer. Das wurde noch also bestimmten Klassen, noch Ständen. Ah, eine direkte Steuer, eine Kopfsteuer. Ohne Tassa personale secondo le case. Invece in Lombardo Veneto la tassa personale fu solo cancellata dal 98, no? Dunque quasi 10 anni più tardi, no? Questi carpeggi campanizi di Giuseppe Becchio sono pubblicati da Pagani, l'edizione Lettere di Etruschi, pubblicata da Barbera nel 1902, una cosa così. È così che a Vienna si trova nessun'opera di Pecchio, no? Dunque io ero stata costretta di leggere questa manifestazione a Venezia, no? Perché non esiste da noi. La prima domanda del professore Reiner, penso che ho già risposto. Und Sie haben also als zweite Frage gestellt, der wievielten Teil der Staatseinnahmen die Verzehrungssteuer in einzelnen Ländern ausmachte. Ich habe das jetzt nicht im Kopf. Die Verzehrungssteuer hat den größten Teil der indirekten Besteuerung ausgemacht, und zwar zunehmend, also das glaube ich war schon im 32er Jahr. Und die indirekte Besteuerung hat größere Einnahmen gebracht als die direkte Besteuerung. Und zwar auch zunehmend. Aber ich kann jetzt nicht also auswendig für die einzelnen Länder diesen Anteil sagen. Die dritte Frage, Sie haben gesagt, aus den Quellen geht schon hervor, dass die Rückständigkeit der Verzehrungssteuer, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das für mich hier falsch gebracht worden, aus den Quellen